Siamo in diretta. So che ci stavate aspettando. Sei in diretta ora. La madre di tutto ciò che è male. Male. L'ambra sono prendendo veleno. Molto male. Benvenuti alla maledizione di Kat, atto 19. Incredibile. E cos'è questa linea? Non credo che ci sia. No, mi fa vedere i commenti qua? Se dovessero essercene, improbabile. Comunque, raga, la cosa importante è che sabato prossimo sarà un episodio atomico. Ok, mentre salutiamo Edoardo Saladini e il suo sallotto, vi ricordiamo che noi però siamo Typhus and Dragons, ci potete seguire sui nostri canali, sui social e anche su quelli di RGDR. No, allora non so che cazzo sia questa. No, guarda la trasmissione, no, non hai ancora fatto il commento. Ciao. Ma no, fare mica qua. Cosa sei? Cosa serve? Vedi che c'è sta riga? Sì, boh, vabbè. Tu non la vedi, no? No. Che non c'è quel no. Non c'è cellulare, no. Non la vedi. Allora, come ogni lunedì, oggi è martedì. Come ogni lunedì, oggi è martedì, no, scherzo. Come ogni martedì. Noi non giochiamo, ma oggi è martedì. Benvenuti e in questa lunedì sera di martedì. Esatto, Monday night di martedì. Giocava la nazionale, abbiamo dovuto spostare. Esatto. Tra l'altro oggi gioca la femminile. Sta giocando la nazionale. Femminile. Femminile, vabbè. Quindi non ce ne. Non diventiamo anche maschilisti. No. Non lo siamo mai stati. No, ormai abbiamo insultato qualsiasi razza, religione. Di solito esatto, ci focalizziamo più. Vabbè, le razze sono una cosa, la donna. Ci siamo focalizzati più sulle razze e giustamente le donne si sono lamentate di questo. Quindi è giustamente vero. Essere donna è un po' una razza. È un po' una razza. Una razza. Comunque, volevamo dirvi che. Cosa volevamo dirvi? No, quando presentiamoci. Sabato prossimo un episodio incredibile, non di Typhus and Dragons, ma del mio sallotto. Dove si parlerà di sesso, droga e rock and roll. In pratica, ok. Sesso in televisione. Forse del sesso nel cinema. Ah, vabbè, una puntata sui porno. No, una puntata sulle prime stagioni di Game of Thrones. Ma non lo so. Tipo True Blood. Ah, gran serie. Tipo Westworld, tipo. No, non è vero, non parleremo di questo, però parleremo di sesso. Parleremo di sesso, beh. Tanto sesso. Ospiti speciali? Tanto nel senso che ne parlerete tanto. È una sorpresa. No. Sasha Grey, vero? Sasha Grey. Va bene. Ema. Okay. Anzi no, Fabio perché ci sa fare con le ragazze lo inviterei. Sì, ecco. Salutiamo Fabio. E ma in diretta al Montenegro. Non credo che ci stia seguendo in questo momento perché il martedì è giorno del tandem. Ah no. Tra l'altro, oggi era l'inaugurazione ufficiale dell'Insight Caffè. Esistono le inaugurazioni ufficiali? Sì. Con. E tu non lo sapevi? No. Era oggi, alle 7 di. Io sono uno dei 5 avventori fino a di martedì. È Gianluca, che cazzo vuoi a me? Un problema al microfono, ma non il microfono della live, il microfono che mi sta entrando in orecchie. È Skype però quello. Cioè, dovrebbe essere basso però. No, non sono io perché mi ha bruttato di scomodo. Quella è la. Il tuo cellulare si è connesso al Bluetooth e sta trasmettendo l'audio della sessione. È corretto, sì. Se non siete mai stanchi di sentirci in lungo. Allora, aspetta, Sala, se vuoi chiudo e riaccendo, è l'unica cosa che mi viene in mente perché non è che ci sia tanto da fare. Uno di quei episodi di Black Mirror ci spegniamo noi e rimaniamo. Bella della diretta. Vabbè, ma Sala è commesso già cosa vorrà fare. Burgo mastro, lascia che io mi esca a scrivere. Salla. Sì. Ti senti di nuova intermittenza? La mia voce è nasale, ma è normale che sia nasale. Oh, per ora no, però. Ho Comunque ho detto che nel caso non è un problema, perché io e te siamo insieme e so già come vuoi comportarti. Scappo. No, no, so già che tu andrai lì e dirai: Borgomastro, lascia che io offra la tua vita per te. No, no, la tua vita, la tua vita. Che io offro la tua vita per te. Sì. Oh. Va bene ragazzi, sono un po' dislessico, un po' confuso, ma non so se ti può aiutare questa saga, come si vede incontro lui. Sì, ma ce l'ha già detto che sono i nemici, non è che... Ma l'abbiamo già fatta in diretta la presentazione nostra. No, chi c'è? Chi c'è? Chi c'è Giulio? Dai, raccontaci. No, no, sai tu che lo no, fai. No, no, mi no, sento no, molto a disagio. Ma sì, hai ragione. No, no, no, è no, no, no, dei ruoli da rispettare. Cioè, non posso, Giulio. Non posso, cioè, no, non mi permetterei mai. Va non bene, mi permetterei insieme mai. A Giulio Bosi, il timido, c'è cioè, sono io, Andrea Giacomo Vecchi, Stefano Gamberoni da Bologna, oltre al nostro... Di nuovo, visto che sottolinei quando manco una volta, sottolinea che sono... Ma rompere il cazzo, scemo, cioè. Purtroppo c'è anche Stefano Gamberoni, di nuovo. e oltre a noi, stupidi giocatori di quinto livello, fortunati che battego di quinto livello, di già quinto livello di nuovo quinto livello, c'è il master King Enrico Cattabriga al nostro servizio, e da Franzberg Konigsberg Franziskenberg, non l'ha ancora riparato neanche lui, c'è Edoardo Saladini. Ciao. Siamo in attesa di Francesco Arcigidiacono, che nel caso ci farebbe essere al completo, perché di fatto Luca Lazzarini ormai lo salutiamo con l'inaugurazione del giorno, forse lui c'è, non è detto, però non è così detto, non lo darei così per scusa. Beh, dici che è al piccolo stasera, potrebbe essere è al piccolo a dare volantini per sì. Il sacco, no, no. Sai che fai per dare volantini al piccolo? Quando un cliente entra, sai che c'è un bellissimo locale oggi, l'inaugurazione del set caffè, ma non scordare il nostro signore il piccolo. Carta, tu hai preso il mio manuale dei mostri? Sì. Beh, soprattutto il nostro master, il nostro attuale master Catta, ieri ha compiuto gli anni. Ah. No! Applausi. Io sono salito di livello. Tu sei di livello. Sei salito di livello, come testimonia questa tua scheda. Se volete che anche noi siamo come livello, non iniziativa. Come vabbè, la destrezza no, come... Wow. 29. Beh, scusa, non puoi vedere dietro la vista, perché dietro la parte scarsa e poi doveva vedere davanti. Same. Bello, però fallo vedere in diretta. No. Dove era anche cosa? Tardato tanto. Che bello. Dopo tutti gli elogi. Che si vogliono bene. Questa è la scheda di Catta. Il King. Beh, andrà a leggerla ad alta voce. Postatela nei commenti, scusa. Sì, sì, adesso. Ah, sì, è vero, storia. No, nei commenti LinkedIn. Storia su nome del personaggio Catta, ovviamente. Master di 29esimo livello. Background chimico. Razza umano, allenamento neutrale buono. Non sapevo. Grazie bene. Per considerare. Io pensavo fosse tipo. Non c'è la cosa NB, nota bene. Nota bene, no, nota bene. No, tipo è meno l'entrata. No, allenatura forza 12. 12. Beh, già 6 a 9, vabbè, il cardio non è mio forte. Costituzione più 3. è giusto. Intelligenza 14, buono. Bello. Saggezza 10. No, ho usato praticamente l'umano standard. Esatto, cos'è? Cioè. E carisma più 2, wow. Vabbè, comune, lingue comune e lingua d'Albione. Uh-huh. Hobby internet. Classico. Il nastro birraio. Perché se ho più 8 in arcana, più 9 in più 8 in storia, in natura, in performance. Rapidità di mano. Siamo tutti in questo. Ho ben 290 punti ferita. Merda, sono un sacco di carne. Per tratti di personalità, il King. Ideali. Tra l'altro, non ho massimizzato i 29 di 10, è venuto casualmente. 290. Tra l'altro, se su Google fai tipo. Puoi tirare i dadi. Quindi ho tirato 28 dadi. Ho fatto quelli, ovviamente quelli che erano sotto il 6, ho portati a 6, ho aggiunto la costituzione e venuto 100. Wow. È già vivendo. Infatti presenta il King, ideali tutto World Works and Play Mix Jack a Dull Boy. Bones Mickey flows in espansione. Grazie. Ma che è il proprio difetto? Talenti e tratti. Sono Lenza, è finito il vino, cosa da porno divo. Cheat, che devo capire a cosa si riferisce. No, è legato al gioco di ruolo. Ah, ok. Conoscenza enciclopedica di Dio. No, so, catta, dipende. Voglio dipende. Cioè, qualcosa. Almeno metto un nome a qualcosa, infatti, a svelarci. So. No, voi, perché io non capisco il riferimento. 7 di dadi più 7 che fanno 7 di 6, madonna. E un altro più 5, quindi evidentemente sono un dual wielder. No, dipende se lo lanci o è vero. Gli dai in faccia da distanza o tipo mele... lo scroto dei dadi. Ho 1500 monete d'argento. Più quanto dell'infinito, però coi dadi. Bello. 7 di dadi, manuali vari, occhiali, motorino, borsello, anello della protezione più 7. Della prepuzio più 7. Anello di protezione più 7. Quello vale un sacco. Grazie, la conserverò gelosamente. Questo adesso lo butterò via. Wow. Esatto. La linea della protezione, perché se no tua CIA era tipo 9. Esatto. Infatti, infatti è un botto, grazie. Ora posso andare in motorino più. Beh, il borsello non gli dà le sicurezza. Beh, quella è tipo la borsa il borsello non sì, cioè è tipo una dimensione alternativa. Poi avrei potuto scrivere più cose. Io ben teori. E guarda caso, lo stavo proprio vedendo ieri sera, che mi manca le ultime due puntate, poi sarà finito. I finalmente. Simpsons? No, The Big Bang Theory. Alcuni diranno finalmente, forse hai ragione. Non so, io credo di aver smesso dopo la quinta. Ma poi un pochino riprendi. Ha un andamento... Comunque spero che ti stiano, se non ti stanno fammelo sapere. Magari, qualche calcio di più. E fatti delle domande. Questa... Questa è un po', vita. Diciamo, un inno alla mia personalità. Ma è catta. Esatto, perché all'inizio volevo prenderti qualcosa a tema no, dungeon. Sono entrato, ma in realtà è un negozio nerd, ma nerd di massa. Cioè, quindi vai, i fumetti e le ultime cose. Cultura sì. Pop. Però questa è bellissima, cazzo. Esatto. Però visto questo, ho detto, vabbè, dai, no, ci sta. Questa è bellissima. Bene, avevo proprio il problema di non sapere che cosa mettermi. Ma che qualsiasi cosa indosso in questi giorni comincia a fare erba e poi questa. Ci vado più. Ho troppo emozionato. Bella. Grazie ragazzi. Vai Katta. Grazie per il sesto livello. Non esatto. Devi, Bene, adesso possiamo andare direttamente al decimo livello, direi. Non sappiamo più come corromperti. Sì, esatto, il livello. No. Che al decimo livello ce lo siamo un po' guadagnati. Abbiamo fatto la battuta di internet prima che sia troppo tardi. No, perché mi ha specificato ma non ho allora, un detto così. Che poi tua madre cos'ha? Un iPhone, no? Quindi ha preso tutta Robby OS. Quindi pare che tu non abbia nessuno. No, quello non ce l'ho. Bene. Avresti dovuto cercare su internet come risolvere il problema. Non avevo voglia. Bene, direi che possiamo iniziare. Ho usato sennolenza. La 19esima. Vabbè, anche saggezza 10. Dovremmo partire. Quella si fa col tempo. La saggezza 10 è dovuta al fatto che hai cambiato classe dalla quarta alla quinta. Dovremmo partire con riassunto. Esatto. Io faccio il mio. No, basta. Fai tu per tutto. Fai tu. Allora. Il punto esatto dove eravamo rimasti alla fine della sessione prima era... Allora, va a essere ovvio che pensavo che fosse competente. Allora, gli arci siamo rimasti... gli arci siamo rimasti all'abbazia per vedere cosa combinava Esmeralda. Nel frattempo, voi... cioè... già del voi. No, tu... insieme a... Race. Solo Race. Abbiamo fatto un combattimento. In realtà lui ha cercato di non palesarsi, ma poi una certa si è palesato anche lui. Sì, c'è stato quello scontro, esatto. Con questi arbusti. Prima col cavaliere, che era un cavaliere scheletrico, che avete fatto muore praticamente subito. E poi sono usciti dai ciascuno. No. Mio alce. Mio primo alce. Nel frattempo, nascosti nei cespugli c'erano Race e Giulione. e dei... Avevano un nome quegli arbusti? Ah, degli arbusti. Vabbè, degli arbusti... Arbusti spinosi. Arbusti spinosi umanoidi maligni. Che hanno attaccato il gruppo. Giulio e Sala si sono a quel punto dovuti palesare per aiutare a intervenire nel combattimento e a quel punto la compagnia si è quasi del tutto... Sala si è palesato. Sì, è vero, Sala si è palesato, Giulio si è aggiunto dopo quando hanno cominciato a parlare. Da qui si è... ognuno, ogni parte del party, diciamo così, aveva un obiettivo in quel momento diverso. Una destinazione diversa, soprattutto sì, un obiettivo. Giulio voleva dare fastidio. Hanno raggiunto un compromesso. Il compromesso era. Fastidio non è neanche iniziato. Vittorio il cacciatore, in compagnia del pipistrello di Salla, che quindi teneva d'occhio, andava da Irina per provare un ultimo tentativo di convinzione per portarla a voler sposare Strada. Esatto. Nel frattempo il resto, quindi. Va Tristrano. Victor. Come si chiama il cacciatore? Questo che era un cacciatore. Van Rictavio che è andato via, no? Pino e Clavio. Van Rictavio. Ma lui è andato dietro. Kevin. Casimir. Giulio. Salto. In teoria rimangono insieme. Atanas Reis e Van Rictavio. Scusa, Atanas Reis e Van Rictavio rimangono insieme, ma a quel punto. Non mi ricordo come si viene a scoprire, no, niente, a un certo punto Rictarion vede che ci sono delle tracce. Ah, ecco, sì, è lui che se ne accorge. Perché ci sono queste tracce? Diciamo, ah boh, sarà il Borgomastro. Voi gli spiegate che il Borgomastro è scappato, è corso in quella direzione, quindi a quel punto il gruppo cade nel campo, perché la discussione no, è stato un Borgomastro. Allora tu a un certo punto si deve essere andata. Allora l'idea a quel punto di Vardistran è, vabbè, ok, andiamo ad aiutare intanto il Borgomastro. Resto, tutto sommato, può essere abbastanza d'accordo. Chi non è d'accordo è il solito, e noi siamo rispettati. Atanas che semplicemente decide di andare in città e Casimir lo segue per tenerlo d'occhio. Andando verso la città loro incontrano me, Garrosh e Pat, che venivano nella vostra direzione perché semplicemente è sparita Esmeralda e lo stiamo cercando e le sue tracce portano sempre in questa direzione, che è la stessa che poi si sovrappone al carro del Borgomastro. Quindi a questo punto ci ritroviamo tutti nella direzione del Borgomastro, tranne Giulio che era in città, Atanas e noi in realtà siamo già al Borgomastro. Sì, voi siete arrivati, esatto, siete arrivati prima e noi stiamo arrivando. La puntata si conclude con Reis e Varestran che raggiungono il Borgomastro e le sue guardie che stanno attaccate dai lupi mannari, Fak e Garrosh che sono sulle loro tracce e io che sono arrivato quasi in città con Kevin. Esatto. E Rictavio che in teoria è da Irina. Vabbè, lui non sappiamo cosa faccio. E quindi possiamo... Beh, in teoria lui lo sa. E quindi ha l'iniziativa. Esatto. Reis e Vardistran. No, come tira l'iniziativa? Beh, siamo in combattimento. Beh, se uno vuole parlare, non so cosa vuole fare. No, le schede? Scheda? Devo mettere su. Va bene la scheda, però. Tipo, cosa vuole fare? Bravo, vero giocatore di ruolo, non serve la scheda. Non c'è anche questo PC, no. Scusa. 4. Dopo arriverà Arci. Mm-hmm. Ti sposterà tutto. Io ti avviso se vuoi organizzare. Speriamo di finire prima. 4. Grande. No. Già in totale? 4. Che in realtà non ho un dei più. Questo tiro 4. Faccio 4. Vero. Race, iniziativa. Non è questa la scheda. Ma non è questa la scheda. Ma andavo destrezza tipo 10, 19. Boom. Ok. Poi ricordiamoci un gelato, ragazzi. Che non ci serve troppo. Sì, voglio mangiarlo in faccia d'arcio. Salutiamo. Come bisogno mi darà più gusto. Potrei sbagliarmi, però. Allora, ricapitoliamo la situazione alla fine della scorsa puntata. Arrivate sul luogo da cui sentite provenire delle urla e dei rumori di colluttazione. Ci senti? Sì, sì, sì. E la scena che vedete è questa. Ma scusa una domanda, è già in città o è lungo la strada? Questo no, è lungo la strada. È ancora il boss. Non è molto lontano da alla fine il, dove eravate. E c'erano. Ci sono tre cavalli distesi a terra. Le tre guardie che li cavalcavano stanno cercando di difendersi e difenderli da altrettanti lupi mannari che li stanno combattendo. Il borgomastro lo vedete che è ancora a cavallo, che sta praticamente venendo che sta cercando di scappare, mentre c'è un quarto lupo che lo sta tenendo per uno scarpone mentre sta venendo trascinato dal cavallo al galoppo. E in quel momento da un albero salta giù un altro lupo che atterra dietro la sella del borgomastro cercando di disarcionarlo. E voi siete cosa? Lo tengo qua sotto in questo. Sì. Voi siete perché se lo lascio qui lo fa volare. Voi siete a 50 piedi di distanza e il primo ad agire è proprio Reis. Ma quindi quanti sono i totali? 5. 5. 6. Cosa c'è nel paesaggio? Alberi e nebbia. Terra e acqua. Volevi una descrizione. Ciao Arci. C'è anche la mia scheda. Cosa ti sorprende? Cosa sta merda? Ti sembra master? Ah, c'è. Ho detto che spostava tutto, io te l'avevo avvisato. Mi è arrivato Arci. Mi abbiamo già dato un regalo. Ah, ok, ti devo dare dopo 30 euro a testa. Allora, grazie, caro. Ma no, sembra che togliamo. Vedi che 29 anni. Ma che schifo. Grazie. Ciao Salla. Scendo dal lancio e ciao, mi nascondo. Ok. Immagino tu vada qualche metro fight nella foresta per andare in copertura. Io converso. E fai uno stealth. Stiamo correndo. Stiamo correndo verso di loro. Nella loro direzione, loro hanno già raggiunto il borgomastro. Pezzo sul lancio, no? Sì. Cioè, è l'alce che ha sopravvissuto. È un casino che tu sia scappato. Scusa, ma. Ok. Entrambi sull'alce. Dopodiché. Non è il cavallo. No, era andato sull'alce perché il cavallo era stanco. Cioè, il cavallo ce l'abbiamo. È vero, è vero, è vero. Magari serve a trasportare qualcuno. Sì, c'è anche il cavallo. Un modo per filtrare lo zucchero. Va bene, non mi nascondo. Cosa fai allora? Aspettavo. Cosa la fai? Mi nascondo, mi nascondo. Dai. Solo mi piace troppo dolce. Ma non è più dolce la cosa, no. Che dolce? Cioè, non è che è più dolce, è un po' diverso. Se volete farci sapere se trovate più dolce la Coca-Cola normale o la Coca-Cola. Se volete chiederci in diretta un modo per estrarre lo zucchero dalla Coca-Cola? Sì, da fai bollire. Quindi alla fine cosa fai? Sicuramente è la cosa migliore. Non estrai solo lo zucchero. Puoi provare che sta mangiare tutto lo zucchero. Ah, però gli fa bollire quindi. No. Cristallizzatore di zucchero. Quindi ti nascondi o no? Sì, sì, mi nascondo. No, perché se fai bollire tutti gli altri stati precipitano insieme. L'acqua c'è l'altro oltre questo. Sì, no? Sì, l'acqua c'è. Non è finita la realtà. Ok. Yeah, tutta il Bologna, non c'è più acqua. C'è più acqua. Dopo di Race agiscono i lupi mannari. I tre lupi che stanno attaccando le guardie li cominciano ad artigliare con le loro possenti unghiate. Chi comincia ad attaccare, scusa? gli NPC, però non hanno molto successo a quanto pare, ma forse questo no, neanche. Queste guardie sono addestrate. Questo lupo fa veramente cagare. Guarda, resistono all'attacco. Sono addestrati quei poliziotti di sala di Urban Heroes, fucilati dietro la nuca. Sono qua i ladri? No, non sono ladri. Grazie, arrivederci. Lupo che sta venendo trascinato dal cavallo del borgomastro infligge delle ferite alla povera bestia, che però continua a galoppare. E poi, ma io quello, scendo sul luogo? No, cavalcando più velocemente possibile verso di loro. Io sto cavalcando, tu galoppi. E nonostante sia praticamente attaccato a lui, anche l'ultimo lupo manca completamente il bersaglio. Ora sta a Vardistran e alle guardie. Ma bisogna prima andare ad attaccare. Invece sono due sul borgomastro. Sì. Uno che è a cavallo con lui e uno che sta venendo trascinato. A cavallo con lui, sì. È saltato da un albero in sella e cerca di disarcionarlo. Ok. Ma con poco. Però io non posso caricare quello perché è dentro l'area lì, quindi caricherò quell'altro probabilmente con l'alcio. Sì, è dura caricare. Però sono di fianco poi comunque. Sì, puoi caricare il cavallo su cui sono. Però a favore. Non descrivere niente, no. No, si può andare a prendere l'acqua, mi sono bloccato con la sedia. Niente, ci pensa. Mi spiace. Google continua ad ascoltarlo. Ti ho messo anche. Grazie, Max. Ti ho messo anche. Potevi semplicemente dirmi. Non so. Chiudi un attimo. Okay. E allora. Questo cosa racconta come movimento? Sì. Okay. E, attacco. Allora, cazzo, guarda, le maiali che volano. Ci è caduta la saponetta, poi saponetta. Allora, vabbè. Ma, ho la sedia bloccata, cioè, ci saresti riuscito. L'alce. Marco Combi. Allora, io niente, vado contro l'alce. Cioè, il l'alce. Ah, troppo tardi. L'alce, cioè, sono già contro l'alce. L'alce va sul lupo a terra, che è comunque contro il borgomastro. E prova a colpirlo facendo un discreto 20, direi. Ok, lo colpisce. Gli attacchi dell'alce sono di tipo magico o argentato, secondo te? Dall'alto sì. Della tua esperienza argentati potrei forse io cavalcare un alce argentato, perché no, il fatto che sia non fa danni, non so proprio se, non so se è la prima volta che affrontate dei licantropi, sono immuni ai danni. Immuni? Non è solo resistenti, è già scritto immuni, cioè se gli arriva una cornata in faccia gli sono immuni. Dice di me immunity budgeting, piercing e slashing damage per magari li prende, li rigenera subito. Sì, vabbè. Ovviamente il flavor è quello che loro non tiro i danni, ma metti comunque il tiro salvezza sulla forza, quello sì. Mm-hmm. CD? Non ci ammazzeremo mai. Se aveste un'arma d'argento, vero? Atenas. La. Fallisce. Lì. No. L'unico che ha un'arma d'argento è tornato in città. Così. Cade a terra. E poi io faccio, uso il mio channel. Vabbè, qui le guardie avranno armi argentate. Per cazzo, fare... sono state per questa zona. Abjure enemy, ma questo è un Fiend. Abbi paziente, però. È un Fiend questo? No. E se avete delle monete d'argento potete provare. Okay. Sono degli umani. E quindi. E niente, mi fa. troppa orazione. Certo. E purtroppo sì, mi spreco il channel così. Però forse potrei usare la mia inspiration. Vero, può andare immune proprio. Per dargli svantaggio. Molto più forte. Ah, cosa fa il randello incantato e prendere la randellata? Gli do svantaggio. Uso, se posso, uso il mio, la mia inspiration per essere molto più potente. Cioè mostro il mio simbolo sacro. Che so è un ramo di quercia. E fatto con un ramo di quercia. E gli dico: immonda creatura! La luce! Ti ricaccerà! Non certo quella della luna, però. La luce del sole ti ricaccerà! Indietro, bestia! Pure un e mi deve fare un tiro salvezza sulla saggezza. Okay. La CD dipende dalla tutte mia, le bestie dal mio carisma, che è più 3. Quindi è 13, quant'è, no? Sì. Non mi ricordo, cos'è? 10 più proficiency? Più proficiency? 8 più, 8 più proficiency, più caratteristica. Allora è un misero 14. Però con svantaggio. Perché uso, cioè, se me lo fai usare in questo modo. Sì, va bene, te lo concedo. 20-20. tiro salvezza su, hai detto salvezza. Wisdom? Eh sì. Sì, saggezza. Fallisce. Fallisce, bene. Questo vuol dire che è spaventato. Può essere spaventato, vero? Sì. Sì. Hai usato bene gli spiriti. Allora, sì. While frightened, the creature speed is zero. E non può beneficiare di nessun bonus alla velocità. E niente. Per un minuto. O fino a che prende danno. Okay. Colpirlo borgomastro. Però se è a zero è bloccato l'intero. Poi lì puoi l'arco. È sul. L'hai fatto a quello sul cavallo, no? Sì. Credo. Quindi è spaventato sul cavallo. Si vede però che è spaventato. Okay, però se è zero non si può muovere in teoria. Sì, ma lui non, finché il cavallo cavalca non usa il suo movimento, che bisognerebbe farlo scendere in qualche modo. Io però non posso usare il mio movimento perché se quella è un'azione. Puoi urlarlo al borgomastro, spingilo giù. Tanto non è attaccarlo e fare gli danni. Puoi urlare lungo la vai incontro al lato. E poi gli dico: spingi questa creatura, borgomastro, spinga giù questa creatura e fuggiamo come il vento. Sì, no, no, Dante è arrivato. Pure. Vediamo se ce la fa. Però no, ho capito, basta che lo tiri giù. Dovrà fare una prova. Poverino, così automatico. Aspetta, guardo quanto cos'è frightened. Che qua ho già capito che si cerca di di barare. Aspetta, vediamo. Beh, comunque è un corpo che devi spingere. Cioè una prova di forza con svantaggio su tutte le sui check delle abilità. Okay. E quelli per l'attacco. Finché la fonte della sua paura è la sua linea di visuale. Ok. Non può muoversi di sua spontanea volontà fino a che sì. Però d'altra parte, siccome la sua velocità è zero, non si può muovere, punto. Quindi basterebbe buttarlo giusto. Però se subisce danni da caduta si riprende. Non può subire danni da caduta, se non può subire una cornata di alce, farà il piacere di non subire danni da caduta. Forse. Non so. No, mi serviva a vedere Domenica sono fuori tutta la giornata in famiglia del Ferrarese, sì. Avevo letto che il borgomastro lo spinge giù da cavallo. Sì, foto quell'ora lì, cioè non avrò mai. No, avevo letto che il cavallo corre. Cioè, se cambio idea all'ultimo durante la giornata, tocca magari faccio le guardie che vedono la situazione abbastanza disperata perché le loro armi sono inefficaci contro i licantropi. E quindi si mettono in posizione difensiva sperando in un miracolo e di sopravvivere. Che si va a 18 in costituzione. Arrivo. Race, cosa fai? È caduto, quindi. Un borgomastro è fuggito. Tiro una freccia al borgomastro. Prego. Vabbè, allora easy, vado, corro veloce sul cavallo che è lasciato incustodito e scappo. Ok. E dico, scappate! Sciocchi. Ma torni indietro? O... In che direzione scappi? Verso da dove sono. Ok. No, no, stai scappando insieme a lui. Ah, ok. Anche il borgomastro in questa direzione. Lui no, ti dice preoccupato. Incrociamo con lui, andiamo via. Ma così i miei ragazzi moriranno tutti, sono spacciati. Ormai. Borgomastro? Cosa hai detto? Scapperanno con noi. Ti lascio inganno. Ma no, vabbè, ma fai dire di fuggire. Tira su sarcasmo. Che abilità è sarcasmo? Ci copriranno la fuga. Ok. In fondo il loro onore più grande. No. Ti visto parlare di noi? No. Straccione. No. Straccione. Beh, la tattica delle guardie sembra funzionare. E... Ma nessuno attacca ragazzi. Questi adesso ho fatto quelli che stanno attaccando le guardie. C'è solo uno che può attaccarmi. Esatto. L'altro è spaventato a terra finché Vez è nei paraggi. Pensa quanto è brutto. E poi... Nonostante non sia più un vecchio bauso. Mi dice danno, ma non posso fargli danno. Oh, quindi. No. Smite. Sì. Lo smite? Che ironia, uso il paladino e non smite. Ma scusa, ma il paladino non ha tipo arma magica? Sì, sì, è quello che volevo fare. Come incantesimo. Però ho voluto che... Che tra l'altro è grave, in realtà però... È un incantesimo. A chi tocca? Ma non so se è buono. Tocca. Catta il mio cavallo, cosa ha perso? Le zampe nella corsa, cioè. Devo già farlo. Ma sei tu il cavallo. Tocca quello che attacca Vez. La forma... Ma tanto noi adesso incrociamo il borgomastro, lo difendiamo e ce ne andiamo, lasciamo mezzo le guardie adesso. No, lasciamo mezzo. Uccidete il borgomastro. No, io potrei anche magari morire subito perché viene incontro dicendo ci lasciate stare, è già morto, andiamo via. Il lupo mannaro che... Cazzo, bonus, porca miseria. Hai fatto cadere per terra, ti dà un attacco con i suoi artigli. Però deve rialzarsi. Sì. Ha svantaggio quindi. No. Se è impaurito sì. No, se è impaurito non lo può attaccare. Ah, no, può attaccarlo con svantaggio. Quello impaurito no, perché è a velocità zero ed è. La velocità zero e non può, non può avvicinarsi di sua volontà. Ah, chi ha quello che fa paura. La sua paura. Certo, giusto. Allora. Classe armatura. Lo sai, non altissima. 16. Beh, insomma, media. Ti colpisce con le sue. Non so se è già lì che tiri i danni, quindi. Perché immaginavo che tu non avessi 20. La serbatura. Dai, ti fa solo 4 danni con i suoi artigli. E poi? E poi proverà con darti un morso. Dai, tu morso così. Mordilo. Incantro. Oh, 20? Shit. Ragazzi, che non c'è. Dopo passi dalla nostra parte. Ma 34. Se ti dice, andiamoci la pizza. Se ti dicessero, tu puoi scegliere o non mangi più la pizza in vita tua, ma più in nessun tipo di formato, oppure puoi mangiarla quando vuoi, però ti devo mettere il culo con il braccio fino alla spalla. Rinuncia alla pizza tranquillamente, poi il tuo però braccio. Considera che però non è tutti i danni che vengono tipo sono 12 danni, non ci sono, è come dopo tutto quello prima. Cioè soffri nel momento dell'inserimento, dell'inserimento, sì, sì, però poi se esce così. So per certo che dopo non ho dopo più cazzo, ma tra il momento no, diciamo, magico, il infilaggio, cioè, diventa più, se diventa più uno potrei fare gli attacchi. Sì, sì. Soffri. Se mi prometti che appena sei visto. Questo magico, non è quell'altro. La magia. C'è buono, cazzo. Intanto prendi un D20 e tira. Mi hai fatto questa domanda. Così. L'altra di qua è massacra. Un braccio in curva che crea un'arma. infatti spiritual weapon. Quello è il fatto che lo sto usando. Beh, è più di arma secca nel tuo caso. Io di solito metto i miei diventi. Vuol di 20? Invece se li dicessi. Di che si legge? Dai. Vuoi che lo legga io? 70% no, di probabilità. Hai bisogno di un bonus o casualità pura? Di prendere un super. No, è un tiro a salvezza sulla costituzione. Che tu sai, io più 2. E rimango come sono. Tu cosa preferesti? Lo preferesti? Cosa? Cosa? Un gioco a scemo. Tu premeresti? Tu premeresti? Allora, io no. Cioè, ma che cazzo ti dà? Vabbè, allora, non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Magari non lo premerebbe. Sei stato morso da un licantropo. Va bene. Sì! Pezzo dei nostri! Disingaggio è un'azione. Esatto. Quanti danni ne hai fatto? E poi 12. Andiamo a busso. Team Stradvez. C'è qualcuno di noi che sa che vuole. Fuggite, sciocchi! E niente, cominciamo non a fuggire adesso e giocheremo di costituzione. Però sì, il Garugamastro almeno è più avanti. E anche Race. La tua costituzione poi aumenta, diventi un mannaro. Tra l'altro sono stato scorretto. Strano. Perché tu. Attenzione. Che ironia. La tua alcia è un non morto. I non morti in teoria non fanno fatica. Quindi non potrebbe andare avanti all'infinito. Rock and roll. Perché è un non morto? Perché tutti quelli che vengono creati anche famiglie, cose evocate. E se cambia forma lui no? Però. No, perché quello non è evocato. Cioè, no, brutto. Posso anche scacciarlo se voglio. Vabbè, no, non lo so. Ma sono non morti, sono nell'aspetto o sono non morti? Perché qualcosa anche di caffettino. Ora no! Ora sì! Ma qualche zero, no? Allora, so che non è roleplay, però tecnicamente conviene se evochi bestie, se dobbiamo correre, piuttosto che essere tu stesso una bestia. Ma te l'hai già fatto, ricordi che ho evocato le cose nel film da un caprone in una scena. Ma tanto ancora non le avete incontrate. Se arrivo in raggio, ovviamente evoco i cavalli e dico montate, se poi tanto evocherò una libellula, un carciofo, perché capisci che sono gli occhi, però. Esatto. E carciofo, in che forma state viaggiando adesso? Io sono un drago rosso. No, lui è un cavallo, io lo cavallo. Tu sei un cavallo, ok, allora. Sceo, apri questi. Grande, una pausa che ha portato il gelato. Bravo, Sceo, tanta roba. Ma tanto Asci non lo mangio, però. Sceo, se per mangi il gelato? Avessi tutti i sensi, sì, no, ammanetti, amplificati tutti, ma più del normale. Sì. Però poi, per tutto il resto del giorno, sei una sega, tipo, ci vedi come un... Si chiama cocaina. Come carta? Si chiama cocaina. Cosa? Si chiama cocaina. No, lo faresti? No. Ma no, ma è bellissimo. Tanto io passo. Vabbè che io passo già la mia vita con gli acciacchi dei novantelli, però. No, sì, sembra molto una droga, no? Se invece ti dicessi, Sceo, che ti danno 5 milioni di euro. Vabbè. 5, sì? 5 milioni di euro. Per il braccio, no? Proprio. No. Io. No, 5 milioni di euro. Però uno dei tuoi amici della tua cerchia ristretta di amici sì. Muore. No. Finisce ovviamente in maniera diciamo, lui è innocente, però per qualche motivo finisce in galera. Vabbè, vivo però. Per 20 anni. lui non sa che cazzo gli è successo, ma tu sei consapevole che finisce in galera perché tu hai scelto di prendere i 5 milioni di euro. Dai, Betsy, sì, ti ha detto vicino a casa. Ti ha detto che sei nella mia cerchia ristretta di amici. Sì, sì. Quindi accettesti. Ma soprattutto. No. Che merda, no. Tipo così. No. Vabbè, sì, considerando ovviamente considerando che non puoi prendere i soldi ma di vita se, si può Anna secondo me direbbe solo uno dei miei amici si può scegliere l'amico no, è casuale, è casuale. Win win. Vai, l'amico chi sarebbe? Eva non conta come amico, non era Eva. Chi era? No, non lo so, era chi era? No, ora lo dici. No, non ho pensato a nessuno. Ah già, sì, ma non era neanche io a chi no, era, non potete scegliere. No, è una domanda così. Ah, se non lo puoi no, scegliere. No, non potete scegliere. Ah no, ragazzi. Ah, no. Perché se puoi scegliere chi sceglieresti, faccio di merda. Magari no, un amico settantenne. No, casuale no, rischierebbe di andarci in mezzo qualcuno qui tenga davvero. Certo. No, no, è ovvio che hai della cerchia di amici a cui tieni davvero. Cioè, se tipo Vez, se succede a Vez, non ma che tengo, ma che a cui io tengo davvero, che loro pensano che tieni davvero. Quello in mezzo è crema di quindi tipo non può succedere che finisce in greco. Non c'è finito noi. E poi c'è il cioccolato rum. Ringraziamo Sheo che prenderà un inspiration per aver portato il gelato. C'è già. Cazzo, c'è. Dov'è che c'è? Un livello usate vecchia cremeria, vecchia stampa. Okay. E va bene anche un livello, per l'inspiration ce l'ho già. Mamma mia, come vedo male il manuale, aspetta. Se invece attaccata ti dicessero. Anche quello. Patk fa automaticamente il 6. Oppure prendi una bancata di legnate da me. La seconda, ho avuto la seconda. Va bene, questa è la realistica. Facciamo una. Che non me ne resti davvero. Vabbè, dopo questo scontro sicuramente saliamo, è ovvio. E cazzo, ci fa arrivare nel bel mezzo del fight. Volevo farvi tirare dei dadi per stabilirlo. Vediamo. Allora. Ma è il fight che sta arrivando. Esatto. Effettivamente sì. Stiamo correndo, passiamo. Ehi, la cosa bella è tipo Reis adesso arriva. No ragazzi, scappiamo, sono tutti morti, andiamo via. E tu rimani là da solo con le guardie. Neanche allora, Tigo il lupo spaventato. Fatemi vedere le guardie. E vado fuori resiste dalla sua vista e fa. Ah, ma di dove ho paura? Guarda. Non sarebbe divertente se Reis la giocasse così. Arriva, no raga, sono tutti morti, scappiamo. Facciamo mezzo da solo. In realtà avrebbe senso anche per poi tutto il resto di quello che vogliamo fare, così finalmente siamo tolti dalle palle senza peso del paladino. Sarebbe veramente geniale. Basta, nessuno vuole male a Vardistram. È solo che non capisce. Quanto rimane indietro. Domenica le aie. Questa? Ma come che bello. Quando torno salviamo. Quando torno? Se torno. Parte questo venerdì e parte torna quello dopo, no? Sì, però poi dopo. Però poi riparto. Esatto. Perché sono una merda sempre in vacanza. Ma perché non mi andate a stare con me? Sale. Capito? Non lavori posso da, muovermi cioè, per loro. Lavori da due settimane in banca e un mese in lavoro da dove vai dopo in Sardegna? Non mi daranno mai le ferie, ma posso solo prendere per due mesi così. Vai a trovare un amico. Ah, Vez, dov'è Calagonone? Calagonone. Ulassai. Come località in Sardegna. Non ne ho la più vaga. Credo. Idea. Credo costa est. Più o meno a metà. No, più sul. Più in teoria non dovrebbe essere lontano dove sono io. Davvero? Boh, dici Giulio così? Sì, ma Giulio non mi sembra. Ma Giulio ne sa sicuramente più di me. Adesso. Potrei sbagliare. Ci scommetteresti la testa, la tua testa? No, assolutamente no. Non so parlare un po'. Ulassai. Ulassai. Ho già sentito. L'ho detto prima Arci. Ho già sentito 5 minuti prima. Dov'è Ulassai? No, Ogino né cosa. Cos'è? Se ci dicessero scelo. Che tu puoi andare, puoi far sesso. Ah, è vicino da, è vicino a Yak. Te l'ho detto sì perché. Sì, te l'ho detto sì, ti ho detto che era vicino a lui. Ah, ma perché vai lì a scalare però, visto che è tipo dell'interno. Sì, certo. Sarebbe lì. È molto vicino a Yak, perché la Musei, Barisardo. Ti ho detto costa est più o meno a metà. È costa est più o meno a metà. Metà sud. Vedi, è qua, sì. Però è nell'entroterra, vero? Sì. Ok, l'entroterra non lo conosco, però Calagonone non è nell'entroterra, Calagonone è una spiaggia. Sì, sì, no, perché infatti dovrebbe essere. Cala, Giulio, dovrebbe anche spiega. Essere. No, cala è perché quando tu sali che scali. C'è Arbatax, ci arriva i traghetti. Qui c'è Yak, qua c'è Barisardo. Sì, ma quant'è tipo da qua? Sarà mezz'ora. No? Da qui da lì, alla sosta. Sì, è vero. Ah sì, raga, ma invece ci ti dicono che puoi far sesso con chi ti pare. Sì. Quindi tipo vedere Rodriguez, Jessica Alba. Ma okay. Stavamo combattendo il però riprendi il controllo. Catta, usa il tuo carisma 14 che ti ho dato. Devi per un anno. Cioè hai tempo un anno. E poi muori. Leccare tutte le fighe di Bologna. A partire dalle neonate arrivando alle anziane di 90 anni. È tempo un anno, ma forse anche solo le ventenni, troppa fatica. Cioè, nel senso, Però dopo si deve capire. Dopo che ne hai cade tutto, e a parte che finiresti in carcere in tempo di. Vabbè, ipotizzando. Giulio. Dipende come lecchi quella del giudice che tu deve. È vero, è vero. magari anche io. È l'amico di uno che prende 5 milioni, quindi poi finisce in carriera dopo che le cade tutte, chissà come. Torniamo a questo bellissimo. Uno lo sa, non è così. Allora, mentre vi allontanate sentite le urla delle guardie in lontananza che vengono sbranate. Tutte? No, non ho dovuto tirare. Sì, ho tirato quando stavi cosando il gelato. No. Carta con me, ancora carta. Cioè, siamo passati da non è entrato fondente. No, sono a posto. Diavolo rega perché ho mangiato abbastanza. Squaglia. Squaglia. Per un round va bene, per due anche al terzo. Esatto, bravo. Carta 2, 3, 4 round mi piace di più. E però quello che non era spaventato continuerà ad inseguirvi. Adesso voi si sì, ve lo farà da prova. Allora, non c'erano 5 lupi perché sì. Uno c'era solo spaventato. Uno spaventato che quindi quando se n'è andato via Vez non era più spaventato e ha attaccato le guardie. Quello non spaventato invece ha continuato ad inseguirvi. Quella sorella. Mm-hmm. Tra le fighe era compresa che lei. Che è la tua. Sì. Però abita a Pianò, però abita a Pianò. Allora non mi piace più. Però abita a Pianò, non a Bologna. Vabbè, Bologna provincia. Sono già più provincia. Comincia a essere tanto. Hai ragione, allora Bologna. 380.000 diviso 2 più o meno. Sì, però c'è mia mamma a Bologna. Cerca di non dire di no per forza. Ma poi dopo puoi scegliere. Ma poi dopo puoi scegliere solo. Cioè chiunque o solo nella provincia? No, dopo puoi andare. No, dopo con chi vuoi, quando vuoi. Con chiunque, in tutto il mondo. Cioè tu clicchi, fai così e lei si anche quando sto facendo una cosa, tipo quando sto ordinando del sushi. Quando vuoi, cioè, se io sono lì al sushi, tu dici adesso in questo momento mentre Arci ordina vorrei avere Jennifer Aniston qua davanti, muda lei e compare. No, perché quando c'è Arci Tu l'hai detto, Pin Cavallin, canta no, noi, tra di tocca a noi. Quanti? Poi arriva Jenny Franco, così fa. Vabbè, puoi leccare i cucchiai, canta, è una cosa molto bella. Cosa devi fare tu? Ah, però aspetta, devo tirare i cavalli. È molto bella. Cioè tu? Cavallo. Cio, lo finisco io. Shut up, please. Archie is breaking the order. Che cavallo sei? Questo? Che cavallo sei? È uno stallone italiano. Seahorse. No, è sicuro. Allora, un cavallo da guerra. Problema. Posso diventare DGS 2? Ma bene, se buono, vero? No, più buono comunque sia questo qua. Secondo me. Sai che li ho mangiati senza. Sta merda qua? No, allora no. Vabbè, ho capito. Pensavo fosse un cavallo. Cosa era? Separato, uno che va veloce, una cosa che va veloce. Questo qua ci sono. C'era un giocatore fondente. Se c'era quella già. A 13 costruzioni, sta merda? Comunque sì, non era male. E quella in mezzo era. Comunque è un tiro salvezza sulla costruzione, quindi posso applicarci il mio arco. E un po' di. Vabbè, se lo puoi dire che ti ha fatto merda perché non c'erano gusti. Ho il coso non numero 6, sono fruttivoli. Però no, beh, sta comunque sempre buono. Allora, volevo assaggiare. Cosa questo? 18. Salla, quanto costa un gelato in Danimarca? Però lì ci sono quelli. No, però 21? Non l'ho trovato comunque. Dipende anche il gelato. Perché sul podcast ho sentito lamentarti del biglietto del cinema. No, dicevo dipende dal gelato. Allora il gelato loro che è quello tipo carpigiani. Sì, buonissimo, che lo metti dentro il coso, spettacolo. Sì. Buonissimo. E il gelato invece tipo panna che lo metti nello sciorino. Tu quello il corretto soft. Però più buono. Cioè secondo me costava di più in Francia. Cioè, no, sto inventando. Allora. Tutto costa di più. Non consiglio di prendere un gelato. Il povero lupacchiotto mentre vi insegue comincia a perdere terreno. Sì, anche secondo me. No, vabbè, mentre ci insegue io mi giro. E gli faccio risata incontenibile di Tash. Ah, pensavo che gli dicessi dai, forza, forza, forza, forza, vuoi fare? Forza. Oh cavallo, oh cavallo, oh. Minchia, ma sappiamo la sapienza su Winston. E dimmi che barzelletta gli racconti. Da cavallo, metterti a lontani. Non lo stai salvando, lo stai portando da c'è un tipo di colore. gli dico sono attento perché il lupo perde il pelo ma non i fitti. Non il? Ma il lupo perde il pelo e il terreno. CD? 13. Vabbè, 2 se questa è la barzelletta, la CD. Cioè, nel senso di Marovia e... Ma no, deve essere... fa più ridere se è una battuta triste e vede come uno stronzo. Lui fallisce il tiro a salvezza. Non può che ridere. Cosa succede? Hai fatto bene, bravo. Lui non può fare altro che ridere, non può neanche correre? In teoria no, cioè cade a terra e diventa uno stronzo. Ok. Allora, aspetta, se l'avevo preso. Dice... E cade, bla bla, il target, bla bla, e dice che cade a terra ed è incapacitato e non può alzarsi fino alla fine. Ok, allora quindi sentite le risate di un lupo che si allontanano mentre voi cavalcate nella foresta. Come ride un lupo? Non lo so, immaginatevelo. Non ti ho dato 14 in carisma proprio per queste risposte. Infatti non so perché tu l'abbia fatto. No, me l'ha regalata il babbo della Mickey che è stato a Sicovia. Vabbè, canta per salire a costare la vita a Michela. Ho chiesto... No, sono lì sopra le mani che mi ha regalato. Vabbè, guarda. Questa è la mia scheda, se la vuoi vedere. Questa l'avevo già vista. E... sono piaciute tutte, canta? Sì. Poi me le proverò. Allora. Ah, guarda, se non ti stanno è colpa della Miki perché abbiamo chiesto la taglia a lei. Grazie. Non avevo abbastanza caldo. Io. Quindi state cavalcando indietro quando sentite il rumore di zoccoli venire da davanti a voi. Che cosa fate? Io credo che sia io lo zoccolo. Il rumore di zoccoli. Non capirai. Sì, dai. Effettivamente anche voi sentite diversi cavalli, che più di un cavallo che si sta avvicinando alla vostra direzione. Io comunque noi sapevamo che stavamo andando verso il sì, però non sappiamo chi arriva a cavallo. Io consiglio a lui, nascondiamoci. E tu che cosa fai? Cavallo. Tanto a lato della strada avremo gli alberi. No, io la mia idea era di salvare loro, quindi continuo. Ma non sappiamo chi abbiamo di fronte. No, certo. Il tuo cavallo è agisce di testa. Ok, mi ha convinto. Scandiamoci. No, pazzesco, qui c'è il cavallo, esatto. Adesso dobbiamo stare nel bosco. Bene, stessa cosa, Pak e Vardistran, che cosa fate? Sentendo un cavallo che... No, noi stiamo correndo, sono però, io. Busso, quindi abbiamo tempo di renderci conto. Beh, voi sentite provenire un cavallo da busso. E dietro di noi? Vediamo di voi sentite la risata che man mano che vi è allontanata non si fa più lunga, non ne vedete adesso. Allora se sentiamo il cavallo rallentiamo, direi, ci proveremo ad affrontare qualcuno. Mi rallano il cavaliere. Beh, in teoria non si può. Come vi preparate ad affrontare il cavaliere? Beh, è molto vicino. No, ora si sta avvicinando. Riuscite, vedete solo un'ombra nella nebbia che diventa via via più nitida. Allora, che vuoi collare? Ma non so chi sono. Appunto, se hai dei dubbi. Se sei tu, tranquillo, arrivo. Cioè, non è che posso. No, e io ti avevo proposto di nascondermi, tu mi rispondi che vuoi che urli. Io posso rispondere, io posso appunto, nascondiamoci. E sei andato più forte di prima. Ok, sarebbe bello fare qualcosa. Neanche se gli do uno zuccherino. Sta arrivando da lì. Io come ero messo forme selvatiche? Ne avevi finito. Quindi questo è il mio ultimo. Non so, ci vogliamo nascondere o lo affrontiamo? Io non mi nasconderei, tanto Allora tipo sfido. Brandisco la mia arma e dico. E dico. Chi si fa? Chi si fa? Chi si fa? Chi si fa di soca nella foresta? Chi si fa un cannone? Ecco, presa tutta sta nebbia, porca troia, fritta e finita. Chi si fa? No. Chi si fa? Chi si fa avanti a sbarrare il nostro cammino? Con la pava. Ok, la scena prima mentre combatte col lupo. Borgomastro, le consigli di fuggire leggiadro verso la non foresta. È vero, sta correndo verso di noi. Chi si fa? Cioè, ogni cosa che sentite questa voce venire dalla nebbia. Vabbè, io urlo Varistran, siamo noi. Tu urli chi si noi fa chi? E lui dice Varistran siamo noi. Ah, si fa da va, che si fa da va. Sono un cazzo dai, di barbaro con intelligenza no, merda, è già tanto che riconosco sì, che sia lui. Ah, gli altri traditori, come? Cosa vuol dire? Seguitemi, Eris! Ma sì! Ma in realtà potevo dire che ero da solo. Non riconoscono te se sei cavallo. Io ho la barba come cavallo. No, però, vabbè, seriamente, ti non palesi, si riconosce. Ti palesi? Ti palesi? Dico, Vardistan, siamo noi. Noi chi? È tempo... Siamo inseguiti. È tempo di farsi. È tempo di fuggire, mi aspettavo. Sì. Ma cosa? Pat, non abbiamo tempo, siamo inseguiti da... Ma Pat chi è? Ciao. Lui. Ma non l'hai sentito, ho detto io, siamo lui. È Grisson, grosso, il Garrison, Gorrison, Garrosh. Grisson? Grayson, tenete Grayson. Io quando sento lui che parla, penso siamo seduti, mi giro e scappo. Garrosh. Garrosh, non c'è tempo ora per i convenevoli, siamo inseguiti dai bandai, dobbiamo cosa? Fuggire. Dobbiamo riparare a Kretzk, presto! E comincio ad andare dicendo presto! Ok, quindi lo vedo passare e... Vabbè, e faccio cenno a lui, ok, seguiamoli. Accelero. Andiamo per loro. No. Girati in versione. No, aspetta un attimo. Ti do lo zuccherino e... Sono morti tutti gli altri. Non sentiamo altri rumori provenire dal no, no, no, no, cioè non sono più dietro di noi da quel che ho capito. Le guardie non sono mai state dietro di noi. Cioè se i rumori sono beh, sì, sono rimaste dietro. Certo. Scusa un attimo, io vedo Garrison, no, Vardistran e Borgomastro. Garrison colpisce di Garrison. E il Borgomastro dov'è? È insieme a loro a cavallo. Sono in tre su un cavallo? No, ognuno c'ha il suo. Io sono su un'alce non morta. Ma lui quando diventa un cavallo è un cavallo non morto. No, l'ho già detto, stessi attento, Bert, invece di farmi. No, è un cavallo morto. Era a farmi di dentro. Vabbè, allora se lui dice sta cosa qua, io inchiodo, ti dire perché. Non l'avete sentito, non l'avete capito. No, porca di quella. Io inchiodo di netto, lui non rischia di andare giù. Era molto alla base. 13 di dado. Ero impegnato a farmi di nebbia. Ma devi tirare sì, la mente io mi impegno a inchiodare il naturale. Garrosh sta in sella. Io non ho la sella. Allora sta in... Sta a pelo. Si fa malissimo. Vabbè, peccato che mi hai fatto usare questo 20. Vabbè, e mi metto a seguire... Ok, vai. Probabilmente non riuscirà più a procreare Garrosh dopo questa cavalcata. Se non spirito, chiamo. A lui però si stanca. Sì, esatto, adesso giusto, no, devo alleggerire il carico. Vabbè, ma se dimmi. No, cioè dipende, non so se andiamo noi corriamo no, ma se si rendiamo conto che non siamo inseguiti non correte più, cioè sì, ma non minchia, questi si fanno 40 km a cercare gente che non c'è più. Non vabbè, allora corri, che cazzo me ne frega, mi vedo un mo' corra sì. L'impazzata proprio, sei l'unico che non ha problemi. Vabbè, era per dire, cioè cioè normalmente stai, quando stai, scappi cioè, dopo un po' tu hai ti rendi detto, conto che non sei inseguito, adesso rallenti. Il tuo personaggio è lì che pam, ti arriva sulle gengive. Ok, no, sì, per dire, va bene. Cioè, nel senso, dovete raggiungere che... una distanza di sicurezza. Va bene, per va bene, vai, faccio la tu sei, il tuo personaggio è convinto di aver salvato il borgomastro, ma lo stai portando a Giulio, capisci? Non sapete, non avete idea. Giulio l'omicidio di Giulio. Siete in 4, ok. La gente che inciampa, scivola sulle spade. Di vabbè, rega, uno allora, fatto Risa, ha ucciso il borgomastro. Sì, e ho ucciso solo uccisore di mogli di borgomastro. Mogli e posso... non ce l'hai fatta, sennò no ho suo stesso abito. Ma come hai fatto? Sai dove cazzo è finito? Come è finito? In realtà è male perché ha sbagliato il cerchio. In realtà all'epoca non sapevamo che la cosa più blasfema che tu potessi fare era bruciare l'abito. No. I versari del vino. Ma l'ho fatto così, senza saperlo. Non l'hai bruciato l'abito? Vabbè, se dipende, ho bruciato la casa. Ah, ah, vabbè, quindi se, c'è se più posso, posso parlare col Borgo Mastin? Che ha detto che pioveva, il fuoco forse si è spento prima. Magari gli occupanti della casa non hanno fatto no, andare a fuoco. No, ma io non so che tu l'hai bruciata la casa. Ma se gli occupanti li abbiamo già ammazzati, gli unici rimasti era la cameriera catatonica che si è fatta. Sì, in realtà io ho sempre lui che e il cuoco. Sì, ma cioè, un cuoco avrò fatto in modo che non potesse spegnere. Io se posso, vabbè, più al Borgo Mastro, ma in teoria anche a loro. Cos'è successo? Perché vi hanno attaccato? Correre! Hai detto che posso. Mandari! Tanto quello il cavallo, mica io. Mandari! Mandari degli abissi. Te, tu gli dici cosa è successo, perché vi hanno attaccato? Cioè, nel senso, cosa è successo? Gli avevo cazzo detto ci facevate qui, nel senso. Lupi mannari! Ci hanno preso una trappola. Ma cosa facevate qui? Ci hanno detto che lui era in pericolo e siete venuti invece dietro di noi. Com'è possibile questa storia? Dov'è la verità? La vostra amica ci ha avvertito lei di venirvi a salvare. Irina non è mai tornata indietro, è al sicuro ora. In realtà la nostra no, non dovevo dire Irina amica. Forse. Vabbè. Vabbè, non dico Irina, ovviamente. Non è vero, l'ho vista io con i miei occhi. Ma dobbiamo tirare per vedere sei cose. Bando alle ciance, fuggiamo! No, perché dato che avete io sono certo di che corro, l'altro che prima corre devono tirare voi. Loro vai, per cercare di arrivare dove siete voi e sì, poi ma non è che per il teore ci mettiamo un po' di tega. No, voi adesso state galoppando, chiaro. E non, io dico non siamo mai tornati indietro. Adesso lei è al sicuro. Non è possibile, l'ho vista con i miei occhi, è venuta a parlarci, ad avvertirci che eravate in pericolo, siamo usciti per venire a cercarvi e ci hanno assaltato. Lui lo sa che lui si è camuffato. Le giuro sul mio onore, Borgomastro, che non siamo mai tornati indietro, ma purtroppo la strada per Vallachi è bloccata, come avete visto, per cui stiamo provando un'altra via, ma siamo dovuti tornare indietro. E quando siamo arrivati al bivio siamo stati informati dai miei vecchi compagni che voi che avevate intrapreso questa via e quindi abbiamo provato a raggiungervi per cercare di avvisarvi. Tipico discorso da chi sta fuggendo dal felato, tra l'altro. Ho capito, l'ha iniziato lui, io non l'avrei fatto. Sì, mi permetto, scemo, cioè. Io solo ho detto cos'è successo, non ho detto loro signore, per cortesia, cavallo, mentre cioè serviamo il tè. Vabbè, ok, nel senso, quando ci sarà tempo di fare un discorso così lo faccio. Ora, ovviamente, dico fuggiamo e ci pensiamo dopo. Questo è okay. Chiaro? Se mi vuoi far tirare un persuasion. Per persuaderlo di cosa? Della realtà. Corro più da. Però, anche nella realtà, bisogna persuadere le persone. Di solito. Non è che basta aver ragione. Non l'ha visto davvero, Irina? No, ok, lo so. Infatti sta dicendo la verità anche lui. Infatti io lo devo, in teoria dovrei tu persuadere. Tu lo sai, cioè. No, io non so come. Infatti, a te sono, cioè, può venirmi in dubbio, ma non lo so. Beh, per cui io gli dico così. Detto, no, neanche a okay. Me l'hai detto come. No, no. Allora. Arcicavallo. Il oh, cavallo oh. Di Race e il cavallo del Borgomastro iniziano a vedere se sentono la fatica. Io non sento la fatica. Meglio. Perception. Io vado veloce. Io vado. Ma perché non avevo più uno yak? 19. Perché? Oh. Cavallo di race. Cavallo di race. Race is horse. Il cavallo di corsa. Il cavallo di race. Non ti sentiamo. Race. Tu non senti noi. Ok. Devo tirarlo io che cavallo. Boh, se ti va. Hai altro, da fare? Tu tira il dado e dimmi il risultato. Stava chiaramente facendo altro. Beh, in realtà sì. Ok. Avete visto che hanno messo l'opzione del dado da tirare su Google? Sì, l'ho visto oggi. Cioè? Se tu scrivi di 20 ti viene fuori il rollatore di dadi e cazzo. Ok. Cominciate a sentire dietro di voi degli ululati. Cazzo, ho fatto 19 io. Quello non ti fa mica andare più veloce, ti permette di correre. Ti dà un vantaggio? No, sono più veloce. No, non sono più veloce, quindi non è. Ma ti sta, comunque la distanza che vi separava non era tale da impedirvi di non sentirli. Non vi stanno ancora raggiungendo. Vabbè, senti un ululato da lì, sì. Vabbè. Prego. Corriamo più veloce se possibile. Devi fare un'altra prova. La frusta non mi aiuta, se no. Poi sprostare. 12. Ok. Race. Posso aiutarlo per dargli vantaggio. Un secondo. Due. Vittoria. Sì, due. E uno, tre, quindi. Che cavallo più. Do you hear the people sing, singing the song of anger? Ma siamo quasi all'altezza del bivio. Quasi, sì, dovreste essere più o meno all'altezza del bivio. E potremmo anche decidere di voltare a destra. Cioè, tecnicamente io non lo so, ora ci penso, quindi niente. Per sì. Quale motivo? Per me nessun motivo, ora ci penso. Allora, ok. Vuoi andare nell'altra strada del bosco? Non, va no. Bene, la situazione rimane invariata. Fatemi un altro tiro. Io vedo che sono rimangono indietro. No, sono 13. Sono sempre, siete sempre lì che state scappando. 13 e 8 okay. Boss. Ok. Sì, però capo devi dirci un po' la scena, perché sai che me lo ritrovo poi di colpo in corpo a corpo, eh. No, certo. Però per adesso non sono ancora in vista. Io mentre comunque scappiamo, già che ci siamo, mi curo comunque. Sì, posso, lo puoi fare tranquillamente. E quanto ho di vita, Giulio, perdonami? 22. Io, Giulio? 22. Tu tutta. Io intanto carico il mio carry-on fatto di lupi che rincorrono bambini. Allora mi curo di 20, lascio 5 punti che non ci servono. Bene, fatemi un'altra prova. Con le violenze. 13. Sì, in chiaro. Sì. La costanza nella corsa è tutto. Ok. Oh oh, dai canta. Oh oh, dai canta. Oh oh. Questo rimane lui. Il cavallo del borgomastro comincia a rallentare. Sti cazzi. Ok. Poi si è complicata. Allora, è l'unico, gli altri vanno bene? Sì. Vabbè, uno. Posso salire con qualcun altro. Però borgomastro, non so. Borgomastro, se... mi avvicino io. E gli dico: presto, borgomastro. Ho già vista questa scena. Cade. Fisso, vabbè. Se proprio farlo saltare al volo, cade. Sono dietro di noi, li vediamo? No, non li vedete ancora. Allora. Ragazzi, dai, ci fermiamo. Dico: presto, fermiamo. Salga su. Ci fermiamo un secondo e lo faccio salire sull'arce. Okay. Sono già in vista? Te lo dico subito. Vabbè, noi ovviamente rallentiamo. Sei tu che guidi, però. Dipende. Cioè, vedi lui e il borgomastro che si fermano un attimo. Tecnicamente siamo qua. Chi si ferma è perduto! Loro non è che. Cioè, rallentiamo, non fermiamoci, però stiamo in vista comunque di loro. Chi si ferma è perduto. Perché ci andiamo del tutto. Chi si ferma è perduto. Chi si ferma è perduto. Allora, fatelo. Non hai più i baffi stupidi? No, oggi non mi andavo di mettere le gelle questa sera. Finalmente. Cioè, sospettinati. Mi andavo di mettere le gelle. Sì, non mandava. C'era, cioè, sentivo, dicevo, boh, non lo odio come al solito. Perché è caldo, si suda. Divento nano. Aspetta, cioè, magari. Uscire in groppa. No, cioè, evoco. Che cazzo fai? Un di 8 cavalli. Vai. Alla peggio ne è uno. Non lo dire. Quindi vengono 3 cavalli. Top. E 5 cose che decidi tu. Ok. DGS un mezzo. Do un cavallo a Sceo, uno lo prendo io, uno lo do al borgomastro e a tutte le altre creature dico andate e opponetevi ai lupi mannari. Comunque cosa siano, bene, ci sta, è perfetto in realtà, 3 è il numero perfetto tra l'altro. Più altro che sono freschi, quindi andiamo, andiamo, buono. No, sono non morti. Ah giusto, certo. E le altre creature non è morte. È vero, non ci avevo pensato. Quindi quella pecora, capra... Sarebbe stata... Esatto. Al montone. Montone della salvezza. Invece. È la salvezza. Metti di vibrare, diciamo. Infatti forse converrebbe quasi che Reis prendesse uno dei cavalli e il borgomastro vende come. Oppure così siamo su qua. Siamo su 4 non morti. Ah, perché tu, il cavallo tuo sale vivo. Sì. Per ora sì. Tra l'altro mi sa che è tuo, non è mio. Sì, è uno dei vostri. Ah. Ah, cioè che anche lui salga con noi, nel senso con di noi. Sì, cioè borgomastro o Reis vengono con me e... Beh, magari il borgomastro viene con te a quel punto lì. È uguale. Cioè, Reis probabilmente peserà meno, forse, però lo so. Secondo me mi sembra... Cioè, è uguale, dai, l'idea di non lasciare il borgomastro è già la testa salito con me, quindi va bene. Due serpenti e il montone dell'altra volta. Sì, Sbeck. Vabbè, i lupi e i cazzo, non posso cavalcare il montone, ti prego. Andare sul montone? Il mio animale totemico. Va sul montone? Sì. La lascio sul montone e sì. Un cavallo si schianta. Ok. Quindi va più piano, scusi. No, guarda, dai, va più veloce, cazzo, un montone. No, perché ho dato un montone con tre gambe. Ma no, veramente. Un moncone. No, se va molto più lento, no. No, la città non è troppo differente. Dai, non vado sul non montone, voglio andare a controllare. Sì. Vai, catta, desisti. Livello. Poi riprendete a correre sui vostri nuovi cavalli. Dai, nuovi montone. Vecchi. Perché non sembrano proprio freschi all'aspetto, ma in realtà corrono. Vediamo che cosa succede dopo un po' silenzio. I lupi cosi vogliono combattere? Ecco, cominciate a sentire dei ringhi, dei latrati. Dei ringhi inteso. Degli orei. Degli orei. I baiocchi. Allora, fammi delle prove di lotta. Certo. 20? No, 15 di dado però. 13 di dado. 13 di dado. Ne vuoi? Un altro 20? Sono 1, 2, 3, 4, 5. Allora questo è un 6. 15, 13, 13, 6 e 2. Ok. L'ultimo era il cavallo, che si è sentito offeso del non essere cavalcato. 2. Bene. Vi allontanate a cavallo e non sentite più rumori provenire dalla foresta. Ah, oh, abbiamo preso un po', eh. I danni disumani che fanno le creature per lontano. Più che altro è l'impedimento. Sono immuni. So. Comunque, è dover correre con il pitone, il lupo, il... allora, il leopardo. E nel frattempo ci sono... Casimir, Atanas e anche Pietro, di cui vi siete dimenticati completamente. È venuto con noi Pietro. Dove doveva andare? Con loro. Ah no, bastava Pietro con me, cosa, perché è venuto anche Kevin? Povero Pietro. Mi tiri un D20. Io? Non eravamo in città. Eravate già tornati? Sì, hai detto che vedevo il bambino che... infastidiva uno la gogna. Sì, è vero. Siete tornati in città. Allora me lo tirerà o Atanas o Reis. Atanas sono sempre io. Un bar di strano. Cosa devo tirare? un di 20 se ti va. Cioè, quando il master ti dice tira un di 20 se ti va, cosa vuol dire? 20. Oh! Era proprio delle Ti saluto negli incontri casuali. Doveva decidere, esatto, doveva decidere un incontro casuale probabilmente. L'unica volta in cui 20 Luca Mannari. No, 20 allora no. Ma è l'unico modo in cui possiamo fare 20, quando non serve. Signor Slincessero. Mi danno un milione di euro. Mi danno un milione di euro. Un milione di euro. Un milione? Non è tantissimo, esatto. Però è però fa comodino. Insomma, diciamo, più del più. Sì, non ti cambia la vita, però sicuramente ti godi un po' di più. Di euro sono un parco ti cambia di la vita, certo, però dipende che cosa è l'altra parte. La, però praticamente vieni teletrasportato di colpo nel mondo di D&D che stai giocando adesso. Che culo. Dove il milione di euro non ti serve una vita. Esatto. No, no, il milione di euro rimane nella tua vita quando però tu. Però una cosa importante. Tu devi resistere un mese nel mondo di D&D come però come scemo, non come personaggio. Forse ho più chance come scemo che come personaggio, però beh no, sti cazzi. Non sei un eroe cosa, quindi ti puoi piegare alle gibe. Vabbè, faccio l'host. Tu devi camperare e lasci che il conte strano faccia quello che faccio vuole. Faccio l'host. Vai, tira un di 12 più di 8. Di morire anche di malattie, cioè la stessa cosa che succede un mese là. Sì, è vero. Vuoi un di 12? Beh sì, dai, un mese è un di 8. Un mese è abbastanza corto. Sei sommo? Sì. 10. Cos'hai fatto? 10. No, sì. Ok, che cosa ti ha fatto? 10 da 10. Ho fatto 10. Era un po' poco. Ho fatto 10 meno 10 meno. 10 meno 1. Quanto ho fatto tirare? Ah, non lo sai. Ho tirato un di 12 e un di 8. Ho fatto 10. 10 di 8. Sta succedendo? Ok. Niente di buono. Il tuo alce mette il piede in un. Ma non ha il piede l'alce allora però. Non ha piede. Mette una buca. Il tuo alce mette il tuo piede in una buca. E niente, inciampa. E? Cadiamo a terra. Sì. Che ironia. Ho fatto 20 ed è come se avessi fatto un bellino. E? Cazzo, non ti ha dato un 20 il risultato. Quando ti rialzi vedi che la zampa è finita dentro una specie di nascondiglio, una buca fatta per nascondere qualcosa e all'interno c'è una sacca. Ah, vedi che ho fatto 20 allora. E Divine Sense non mi serve. Mi tuffo dal cavallo e prendo la sacca. Mi tuffo dal cavallo. Ah, ti prendo dal cavallo. C'è una sacca, come fate la sacca? Una specie di telo tutto raggomitolato. Fagotto. Esatto. Faccio un perception per capire se può contenere una creatura oppure cose cambiate. Ok. 9, quindi che è un po' un 10 meno 1. Ti sembra una sacca. Allora prendo la sacca. No, non ha dimensioni tali da contenere una creatura. Allora prendo la sacca. La sacca contiene una creatura. alcuni vestiti di comuni. Sì. Di fattura standard per un adulto umano uomo. Ok. Mi sincero che il mio alce sia ancora morto. Sì, ancora morto. Non morto. E riprendiamo la carica. Va bene. Quelli lì. Arrivate a Kretsk. Sì. Nel frattempo io che ero arrivato da Mono non ho fatto niente. No, hai messo lì. Flashback di Atanas che torna in città tutto contento, fresco come il sole. Cioè, tipo, la nostra scena è tipo ambientazione horror. Fresco là, come tipo il sole. All'Underworld, tutto che piove, c'è la nebbia. Lui è tipo, non so, il film dei. Ah, Miami Vice, tipo, no, c'è sempre il sole, le palme, c'è il sole, con la supercar. Solo qui con Atanas. Io mi sto a scegliere i miei amici. Esatto. C'era il bambino, il figlio del borgomastro, che importunava un tizio alla gogna. 14 anni. Un bambino! 14 anni c'era. Ragazzino. Vai lì e punk! No, da lì cosa fai? Lo punisco. Cosa ha fatto? Niente. Ok, non funzionano cosa così. Sta punendo? Non funziona così la punizione. Devi fare un tiro sulla volontà per non ridere. Vecchio. No, io rido. Un altro dei villani. Ma io pensavo che Giulio arrivasse lì e dicesse: mi piace questo posto. Vecchio, cosa hai fatto? Non lo so. Sono sicuri che è vecchio e non l'ha curato mezzo questo. Secondo me questo è tornato indietro, però malvagio. Vado. La ragazza mi ha obbligato, ha detto che mi avrebbe imprigionato le guardie. Sì. Mi aiuti, signore. Lo sarà fatto, no? Sì, non si preoccupi. Grazie, signore. Guardie! Imprigionate. Senti, com'è che ti chiami pure Ilia. Tu? Ilia. Ok. Coso. Senza la D. E... la D è muta. D è muta. Adesso no, mentre tuo padre è via, comanda tua madre, no? No? Sì, forse. Non ti piacerebbe comandare te? L'uccisore di non saprei. Mi sembrano molte responsabilità. No, la responsabilità no. Non si attendeva. Allora brucia! No, pensa, tu dici agli altri cosa devono fare. Puoi anche dire a un altro di occuparsi di tutto. Bah. Io vedo quello che succede a mio padre, vengono sempre da lui a dirgli... Perché lui sbaglia approccio. E che approccio bisognerebbe usare? Tu delighi qualcuno di cui ti fidi. Certo, e fa tutto quell'altro, e tu te la godi. Sembra interessante. Però bisogna eliminare chi ha il potere adesso. Io sono il figlio del borgomastro. Sì, posso ma sei ancora il figlio. È ora di scalare un po' questo vertice della piramide. Beh, non posso certo diventare il nipote. No, ma puoi diventare il borgomastro. Ma come faccio a diventare il borgomastro? Alla morte del borgomastro. Mio padre sta benissimo. Forse, non lo sappiamo. Poi è appena uscito tutto sprizzante a cavallo. Ammetti che gli succeda qualcosa, o che quando torna succeda qualcosa. Speriamo di no. Perché? Perché io sto bene, sono appena tornato in vita. Voglio godermene il più possibile, non avere tutte quelle... rogna a cui deve pensare mio padre. Ma appunto, tu deli qualcuno che ha tutte le rogne a cui deve pensare tuo padre. Però tu hai tutto il potere. E che cosa me ne faccio? Quello che vuoi. Ma posso già fare quello che vuoi? Non è la stessa cosa. Sì? No, fidati. E che esperienza hai tu? Scusami. La spalla come sta facendo chiaramente altre cose. Io ho aiutato il borgomastro di Marraghi. Ma già regalata? Non me ne hanno parlato molto bene. Era perché esatto. Sono arrivato io, anche con i miei compagni. Adesso è una bellissima città. Cioè, in realtà è più figa questa, però mi piacerebbe visitarlo. Sicuramente non potrei fare se diventassi borgomastro. Invece no. Dovresti fare una visita ufficiale. Dovrebbero riservare tutti gli onori nell'altra città. Tutti gli onori, dici? Esatto. Tu stai veramente discutendo col figlio del borgomastro. Taci. Dai, Giulio, fai passare la questa parte noiosa. No, è molto divertente. Lo sta creando lui. Sì, appunto. Sapevo che non aveva neanche gli occhi per piangere. Non puoi chiederti di descriverti qualcosa. Pianta, secondo me sta di sesto mentre Giulio fa questi giochi. No, non potete, perché Giulio sta facendo questi giochi. Giulio, ma non ti piacerebbe piuttosto salire di lei? No, mi diverto. No. Guarda che potrebbe essere la via più veloce. Posso sbagliato. Attento, perché qui a Balacchi. Sapevo che a Balacchi non avevano neanche gli occhi per piangere. Ma è cambiata la situazione. Wow. In questi... Ero giù a Balacchi presto. Sì, è cambiato il signore della città. Ah, e chi è? Esatto, lì con lui c'è Pietro. Beh, tecnicamente è strano. Però sarà la signora che abbiamo aiutato. Ma è una cosa terribile, vuol dire. No, grazie, è una gran cosa. C'è un amico di mia sorella. Guarda che l'abate che ti ha fatto una canzone. Non so che è stato. Ah no, però me l'ha appena detto. Ah, quando mi hai detto sono tornato in vita da poco, chiedo scusa, anche però, senso sono tornato in vita da poco. Sì, la Batte mi ha resuscitato perché diceva che non era venuto il mio momento. Vedi, è un no. Se sei stato resuscitato, questo significa che c'è qualcosa di grande in riservo per te nel futuro. No, ma poi lui è rimasto lì. Può darsi. Ma perché aspettare, quindi? È meglio andare incontro al futuro subito. Ma io non ho fretta in realtà. E poi sto bene così. Ma no, aspetta. L'altro, cioè, un paio d'ore fa, quando ti ho chiesto del negozio con cui comprare l'arco, tipo, avevi detto che però tua madre non ti stava tanto simpatica. Forse non è la stessa persona. Forse. Ormai è vecchia e tutte le preoccupazioni degli anni, appunto, nel appunto. Suo ruolo di. Vedi quella differenza? Che tu sei il figlio del Burgomaster, devi sottostare a quello che dicono i tuoi genitori. Non hai il potere supremo, dopo avresti il potere supremo. Io in realtà faccio quello che mi pare. Tu pensi di fare quello che ti pare, ma se tua madre ad esempio scoprisse che tu hai imprigionato sto sfigato qui senza nessun motivo, fare quello che dico io per essere libero. L'unica preoccupazione di mia madre è quella di mettere le mani su una buona bottiglia di spremuta di vino. Cosa che effettivamente da un po' che non fai, infatti la vedo un po' depressa. Sai come si cura la depressione? No, come si cura la depressione? Beh, la morte aiuta di solito. Non vedo come. Sì, allora, se muori, sei fortunato. Se muori uno, sei fortunato. Due, puoi essere depresso se sei morto. Ma io in realtà sono stato morto e non era questo granché. È vero. Vabbè, ma eri depresso? Beh, ma non era il massimo perché la mia anima continuava a vagare per queste triste terre in eterno. Sì, vabbè, ma su quello ci stiamo lavorando. Poi anche se. Ma lascia perdere. Beh, gentile signore, è tutto un divenire. Come vede sono occupato, posso continuare però a dedicarmi a educare i miei cittadini. Ma vedi, se tu diventassi subito Burgomastro li potresti educare meglio. Tipo? Tu adesso non lo puoi uccidere, ad esempio. Vogliamo scoprirlo? Ok. Si guarda intorno, ovviamente il vecchietto si mette a piangere fragorosamente. E Cata sta cercando qualcosa. Delle statistiche. Scusa. Sua. Ho detto la canzone io. Cosa? No, io. Lui aveva un coltello, giusto? Bambino, il figlio del borgomastro sta pensando di uccidere il vecchio innocente che ha messo alla gogna su mia proposta, anzi sfida. Sì, esatto, istigazione all'omicidio. No, fa tutto da solo. Il vecchietto fa urla, cosa? Sta piangendo. E nessuno caga. Si sono allontanati tutti da un po' per non essere presi di mira appunto dal dal caro figliolo. Niente, sfodera il suo coltello e sgozza il povero vecchietto. Sono impressionato. Stai facendo giù? Io niente. Hai stigato il ragazzino a uccidere un vecchio. Perché? Ah, devi chiederlo giù. Ah, wow, che sensazione. E può solo migliorare. Pensa, adesso hai ucciso uno che non poteva difendersi, non c'era neanche gusto praticamente. E quindi che cosa pensi di fare? Potresti uccidere una persona che si difende. O ci prova. Per quale motivo? Ma ti aiuto. È così semplice. Ma non c'è gusto, scusami. Un po' il brivido. Come, senti il profumo della paura. La rassegnazione nei suoi occhi. Ma se tu fai tutto da solo, posso che fartelo mettere qui dalle guardie, poi invecchio di merda. Cioè, c'è più gusto. La paura, tutto è, cioè, amplificato. Mentre parlate, dietro di voi un urlo di una donna. Mi giro. Una cittadina, una borghese, insomma, un abitante del borgo è arrivata e ha visto la scena del povero vecchio con il sangue che sta colando e voi due che state tranquillamente discorrendo amabilmente. Vedi, io mi rigiro, vedi, adesso lei ti ha visto e sicuramente non prenderà la cosa per bene. Mi sorride. Mi ha obbligato lui, arrestatelo! Non ti ha obbligato. Chi crederanno secondo te? Ok, gli sfondo la testa. Lui scappa. E nel frattempo arrivano i cari, cioè, amici, scusa, a scappa, gli sfondo la testa, sono lì. Tira l'iniziativa. Cosa stai facendo, Giulia? Volevo prima corrompere, ma poi ho rotto il cazzo. 14. Scusi, zitto. Gli faccio un attacco in lotta per prenderlo in lotta. C'è una sola contrapposta. 19. No, è come se facessi un attacco, vero? Quindi tutto il modificatore. È una prova contrapposta di atletica contro quello che usa lui tra 19. Tra atletica e acrobazia. Hai preso? E dico, cos'è che ti avrei costretto io a fare? Aiuto, mi sta vuole uccidere anche me. Mi viene in stazione prendendolo in ostaggio. Guardia, guardia. Perché gli spa? Mi faccio due attacchi. Quanti attacchi hai? Ah, è l'arma secondaria. Con una mano l'hai preso. Lo mollo e gli faccio due attacchi. Ah, no, quindi non è più lotto. No. Ok. 13 e 17. 17 colpisce. E sono 6 danni. Mm-hmm. E poi faccio Action Surge. Mm-hmm. Action Surge, vabbè, faccio quello che mi fa ripetere il cose. Action Surge. Faccio altri due attacchi. 22 e 19. Colpisce. Sì, 16 danni. Muore. Arrivano e poi scappo. Arrivano in verso città verso l'abbazia. Scusa, ma a caso mi non interviene. L'aveva allontanato con una scusa, non mi ricordo quale. Avevo detto, sto col bambino. Guarda là. Sì, ovviamente lui arriva, vede il vecchio e il bambino massacrati e in lontananza uno che sta scappando. Che può ricordare lui. E tornano in città, voi altri arrivate in città. C'è una grande folla intorno appunto al... Ah, la borghese è rimasta lì. Sì. È scappata. Lì che guardava la scena. Beh, siamo arrivati. Quindi dopo che ho ammazzato il bambino? Era ancora lì che urlava. Vediamo. La scena che abbiamo davanti arrivati in città è una gremita folle intorno a un bambino e un vecchio uccisi. Che non ho più di idea. Ah, il Giulio che si sta facendo una sega su un cavallo. Allora, è scappato. Faccio... Ma quando? In che momento? Dopo che hai fatto... L'hai ucciso Ilia. A essere onesti, i nostri personaggi potrebbero pensare... Giulio è passato di qui. Che dici? Che? Un po' c'è un cotone così. Non mi piace. 4. No, non mi piace il ponce. Non sapresti dove è andato. Potresti andare in una direzione a caso per cercare di beccarlo. Prendo il bambino dietro. Il cadavere? No. Sì. Ok, lo trascini. Con beh, 14 anni, lo metto in spalla. Ok, con tutto il sangue che cola. Ti cola addosso. Sì, vole, hai tipo sbrindellato. Più del doppio delle sue ferite. Vabbè, c'è un sacco, no? Non lo so. Vabbè, tenendo in spalla. Sì, con il sangue che mi cola addosso, cazzo che frega. Ancora. Ok, va bene. Mentre tu stai sull'abbazia con un cadavere di un 14enne. E voi altri arrivate. Beh, dove sei finito? Noi altri? Arrivati finalmente in città, sani e salvi, con anche il borgomastro che non vede l'ora di riabbracciare suo figlio. Già. È stato appena resuscitato. Allora, noi lo riconosciamo il bambino? Cioè, non c'è il bambino, c'è una gran folla intorno a questo vecchio che ha la gola tagliata mentre sta alla gogna. E questo ragazzo. Ha fatto sgozzare un vecchio alla gogna? Il bambino ha sgozzato un vecchio alla gogna. Io non c'entro col vecchio Lagogna. E... io volevo che lui mi aiutasse ad ammazzare la madre, ma non fa, ma quindi stupido. La... intorno appunto c'è praticamente tutto il villaggio, a questa ragazza che sta piangendo e balbetta quello che ha visto alle guardie che sono rimaste in vita, dopo che quelle che ti hanno... siamo venuti in vostro soccorso, difficilmente torneranno indietro. Ma quindi arriviamo e c'è una folla intorno a un vecchio sgozzato alla gogna. Okay. E una ragazza che piange e balbetta cercando di spiegare cosa è successo e cosa ha visto. Il borgomastro è ferito. Il borgomastro ha delle ferite da unghiata. E gli faccio lay on hands. Mm-hmm. 5 punti ferite sono quelli che mi rimangono. Lui rigenera per completamente le sue ferite. E molto preoccupato sprona il cavallo per andare verso questo assembramento di persone. Sprona la bestia, sprona l'alce. Voi cosa fate? Seguiamo. Ok. Allora, al centro della folla c'è questa bambina che piange suo nonno. Il borgomastro appunto urla con la sua voce possente cercando di silenziare il brusio della folla. Che cos'è successo qui? Che cos'è? Fate largo al borgomastro! A lui! Fate largo al borgomastro! Sono venuti a farci! Prego, abbiamo un po' di letto! Vado a farmi di letto! Appunto, grazie alla tua presentazione la folla si apre e raggiungere la bambina singhiozzante e dice grazie, cerca di tranquillizzarla per capire meglio che cosa vuole dire, dato che la voce è rotta dal pianto e dallo shock dello spettacolo a cui ha assistito. Ma quindi era una bambina, non era una donna? Quello è un bambino, ha 40 anni. Tu hai detto che è una bambina donna, adesso. Ne ha due. Ah, no, è una ragazza giovane, semplicemente. Adolescente, una teenager. No, ma quindi da 14 già devi avere due figli. Avrei dovuto carrarle un quadrello. Vabbè. Non è che vado all'università questo. E lei racconta la scena a cui ha assistito, cioè stava andando a riportare la legna in casa che aveva raccolto quando ha visto il vecchio sgozzato e quello che descrive come un guerriero con due spade e delle altre cose che hai tu, hai delle cicatrici, delle altre, i tuoi capelli corti. Ah, però colori, sì, tipo io sono grigi, capelli grigi e i tuoi orecchi, mentre smembrava completamente Ilia e il borgomastro ovviamente è basito e cioè, scioccato, non c'è cadavere, non ci sono prove, il suo povero figlio è... Ho sentito come, che cosa hai fatto dopo, me lo sono perso, sono andato all'abbazia col cadavere del bambino. È giusto per il funerale, lascia stare, ragazzi. Ma ha ucciso il figlio del borgomastro? Sì, non hai sentito. No. Vabbè, ma quindi c'è solo un vecchio qualcosa lì, non vediamo. Sono noi arriviamo sgozzato. C'è questo vecchio lagogno che è stato sgozzato. E la bambina dice che questa persona, che corrisponde alla descrizione di Athanas, ha smembrato il povero figlio del borgomastro e l'ha portato via, cioè, tra l'altro lo stronzo che aveva tagliato casini, la gola, Giulio. E ovviamente il borgomastro è su tutte le furie perché il suo povero figlio, la luce dei suoi occhi, quel tenero bambino, se era morto, era un motivo c'era la prima volta, era malato molto. E invece questo povero vecchio, chi l'ha ucciso? Pare che è un viziato di merda, no, sto non bambino. Lo so, sono arrivato qui e c'era sangue che sgorgava. Ma quindi tu hai fatto uccidere il vecchio o il bambino? No, il bambino l'ha ucciso, cioè il vecchio l'ha ucciso il bambino. Esatto, quindi ho ragione io, hai fatto uccidere. E poi hai detto, hai visto che bello, ora tu catte. No, è che il bambino ha urlato alle guardie. Mi ha obbligato lui all'estate. Allora, e guardi che figlio ho fatto. Non c'era. Vabbè, io di solito non uccido un vecchio fermo. Ma un bambino sì. Ovviamente. Io sì. Un bambino che mi accusa. Scala le gerarchie, prima il figlio, poi la moglie, poi tocca a lui. Non hai eredi. Oh. Il borgomastro è uccidere prima i genitori e poi il bambino. E su tutte le furie promette una taglia sulla testa dell'assassino, di suo figlio e del povero. Si fa la scenetta, vedete che non c'è da fidarsi dei miei ex compagni. No, io sono molto turbato, ma al tempo stesso purtroppo abbiamo altro che pensare. E... però il problema è che oh, caspita, comunque ha fatto un gran lavoro, bravo Katta, bravi, sì. Belli questi NPC. Immagino tipo entra in Kresk. Infatti il Casimir, se volete interrogarlo, è lì. Ah, è lì Casimir? Sì. Allora io vado da lui e dico, ma... Vabbè, Casimir doveva vedere che io non andassi da strada, non sono andato da strada. Cos'è successo? Cioè, lo prendo di Sparta, ovviamente. Certo. Il nostro amico deve avere qualche problema. Se posso, mi aggrego alla conversazione. Sì, non l'avevo visto. E la situazione per noi qua si fa abbastanza pesante, perché... popolazione non resterà a guardare, già non ci aveva genio prima, figuriamoci adesso, perché ovviamente non faranno distinzioni tra lui e noi. Ma è semplice, prendi il bambino, lo porti all'abbazia, lo fai diventare un mezzo mostro, ecco che l'hai salvato. Sto andando all'abbazia. Appunto, cioè, inoltre so che l'abate lo resuscita. Dei pezzi extra. Prima di andare, però, dobbiamo andare a recuperare Smeralda all'abbazia. Già, peccato che. Ma Casimir lo sa. È già Salla? Io non lo so. Casimir lo sa, però. Lui pure lo sa, ma può dire o non dire. Non te l'ha detto lui. Io non c'ero lì. non eri lì? No, io li ho incontrati dopo, quindi non il discorso tra... No, noi abbiamo incontrato che stanno combattendo, che stavano, esatto, già combattendo. Io non lo so. Però lo sa Casimir, in teoria. Casimir, e poi se lui è lì, anche lui. Sì, è vero. Tu vabbè, non io comunque non gli non dici so che devo andare a recuperare della Abbazia Smeralda. Lo sa anche no. Lui no. Vabbè, e... Sì, hai ragione. Vabbè, lo dico tranquillamente, Smeralda non è più all'abbazia, non so dove sia. Che mi che simpatico, caro. Che ridi? Esmeralda non è all'abbazia. Non so dove sia. Che ridi? Perché sai che non è all'abbazia. Che non sai, no, che non sai dov'è. E quindi non sai se è all'abbazia. Le due cose Vabbè, l'ultima, quando abbiamo ma lasciato... se non sai dov'è, come fa? Hai ragione. Quando abbiamo lasciato la pazzia, non c'era. E le sue tracce andavano in direzione vostra. Si sovrapponevano le tracce del carro del borgomastro. Vuoi dire che andava fuori, è andata fuori dalla città? Sì. E dopo le tracce si perdevano sotto quelle del carro del borgomastro. Allora non ha nessun carro. E ti aggiungo un dettaglio: non ci sta sentendo nessuno tranne Casimir. C'è tipo la folla. Ci siamo messi da parte. Sì. E non so a parte che cosa stia facendo in questo momento. E ti aggiungo un dettaglio. Esatto. È uscita dalla porta. No, lo fai a mano. È uscita dalla porta. È uscita dalla porta principale, ma nessuno l'ha vista. In pieno giorno. Il che vuol dire che è uscita camuffata in maniera magica. Direi che a questo punto non abbiamo particolari motivi di rimanere qui. Mm. Beh, dobbiamo. È una scelta che qualsiasi cosa facciamo sicuramente io chiedo a comporterà delle conseguenze. Io chiedo a Race se ha notizie difficilmente su quello che ci permetterà di tornare. Race? Beh, io chiedo a lui se il suo pipistrello. No, fermi tutti però. In realtà noi non siamo necessariamente legati ad Alanas. Vallelo spiegare. Beh, però gli abbiamo appena salvato la vita, forse si ascolterà. Cioè la mia idea è molto semplice, se restiamo in città è per andare da Atlas, aiutarlo e scappare tutti insieme, altrimenti a noi conviene altrimenti a noi conviene uscire diretti subito adesso dalla città, perché la gente ci ha visto con lui, quindi o stiamo dalla sua o ce ne andiamo adesso. Io penso che ormai Atlas sia totalmente sotto il controllo di Strahd, quindi sia una scheggia impazzita. Che sia sotto il controllo di Strahd non lo so, sicuramente ha fatto una mossa avventata e non ne vedo il senso, ma al tempo stesso no, non vedo come possa aiutare. Non è neanche la prima volta e non vedo come possa aiutare Strahd questa mossa, quindi non è detto che sia dovuto generando il caos in una città ancora non conquistata da Strahd. Sì, direi che però io non è fatto, cioè non è una novità. E infatti non è la prima volta. Volta io che però rimarrei che aiuta Strahd, però adesso io rimarrei sul punto principale di aiutare ad aiutare io Strahd. In questo momento, finché non si calmano le acque un minimo, noi scapperei fuori dalla città. Anch'io andrei fuori, al tempo stesso però non taglierei tutti i ponti e sono anche un po' preoccupato a lasciare la città in balia di Atlas. Abbiamo la città da bruciare. Ma tutti stanno andando all'abbazia adesso. Sì, ma lega, non ci sono guardie, cioè sono come dei no? Cazzo di barboni. Sì, ho capito, ma sono quasi tutte morte le guardie. Se noi non sì, ma se noi non vogliamo attirare l'attenzione o meno, Atanas ha tutta l'attenzione su di sé, è il momento ottimo per scappare, per svignarcela e cioè, il fatto non avere questo, gli occhi addosso. Noi abbiamo sicuramente concedendo perché se non si può lasciare solo in secondo. Cosa avete combinato? A lui ha sgozzato un bambino. No, lui ha fatto sgozzare al bambino il vecchio, l'ha ucciso ed è scappato verso la volta. Che ormai i miei comportamenti sono... Vabbè. Il borgomastro è tornato e ha detto quindi che giustamente allora vi ragguaglio su una cosa, ho messo una taglia sulla sua testa, poi parleremo guarda adesso che lui chiede di quanto se è vero quello che diceva perché la ragazza, il bambino ha detto è stato lui, lui sta scappando con un braccio, un bambino che sanguina tra l'altro, quindi la bambina neonato può trovare dove sta andando. Questo tipo quindi secondo me è strano che non lo trovi ovviamente. Sì, anche a un certo punto avrà smesso di sanguinare. Se noi andiamo dove è lui è per prendere le sue parti. Sì. Il che vuol dire essere d'accordo con questo omicidio. Io non voglio allora, che domande dalle sue parti. E allora andiamo dalla parte opposta. Perché mi aveva accusato. Il discorso voleva farmi arrestare dai guardi. Secondo me sono due. Così cioè da un lato in realtà l'obiettivo mio di caso. Beh, sul momento mi sembrava una cosa mia. E non scambi niente personaggio di cui dopo vi parlerò che ho incontrato che però diciamo. Sarebbe 13. No, non scusate, non sappiamo niente delle stragi che sta facendo Giulio. Era tornato. Ce l'hanno appena raccontato, Argi, non lo sappiamo. Cosa vuol dire non sappiamo? Ci ha detto questo il borgomastro? No, tutto il mondo! Una donna. C'è questo di Maxi Schermi dove c'è una ragazza. L'avete trovata piangente, questo vecchio sgozzato, e vi racconta che ha visto che io uccidevo il bambino. Sì, se Giulio non l'avesse fatto altre 15 volte, potremmo anche dire: ma quando mai? Ma siccome l'ha fatto 30 volte, potremmo dire: in effetti è come si comporta di solito. Secondo me, se lui. No, fino a un certo punto, quando mai l'ho fatto. Ma noi non siamo ancora in due. Adesso... però non ti avevo visto sbottare. Cioè, noi adesso siamo qui e in vista del Borgomastro. Io non davanti al Borgomastro. Io non ho mai. Adesso andiamo all'abbazia. È appena proclamato pubblicamente. Se noi adesso andiamo all'abbazia. Ha messo una taglia sulla testa dell'assassino. Io non ho interesse ad andare all'abbazia. Onestamente non ci voglio. Secondo tornare. Me a questo punto si rega, è dura convincere il borgomastro che Giulio non abbia fatto. Che urla ordini di andare a cercare a destra e manca. Che l'unico chiudere modo tutte, è convincere il borgomastro tutte le, che sorvegliare tutte le uscite e le entrate. E quindi per stare in città a me pare. No, io andrei fuori, però al tempo stesso ho paura per la città. Mi piace che io abbia creato questo regime di terrore. Lo capisco, però non possiamo fare nulla. Una cosa è bella. In realtà una cosa potremmo fare. Molto semplice. Però vorrebbe dire andare, taglia. Prenderlo e darlo al borgomastro. Voglio fare un furtivo sul borgomastro se è isolato. Non è isolato, è in mezzo alla folla. Neutralizzarlo. Se tu sei... o buttarlo fuori dalla città. Allora. Già, non piace neanche a me, in realtà. Non è solo il non piacere. Però ho paura che lui poi qui destabilizzi tutto e consegni la città a strada. Secondo me stiamo continuando a perdere continuamente di vista il nostro obiettivo, in realtà, che ormai è tutt'altro. Cioè, fino a ieri esisteva solo Irina, mo' Irina l'abbiamo lasciata in mano a un mezzo sconosciuto e non ce ne frega più niente. No, ti ha detto? Ah, è vero, ti ha raccontato. Che avete tutto, visto il cacciatore, vi siete fidati come se fosse un amico d'infanzia e li avete lasciato prendere Irina da solo. Irina è al sicuro adesso. E c'è però altro. Andiamo da lei, stiamo al sicuro anche noi. Purtroppo facendo così non spezzeremo mai la maledizione. Quale maledizione? Quella che ci impedisce di uscire da queste terre. Ah, ok, quello è il tema. E qual è il modo per le novità? Potremmo forse avere qualche alleato dei prezzi della vigna, però non ne siamo sicuri. Da quanto pare c'è un'organizzazione che si oppone a Strad, lui potrebbe averla colpita, ma potremmo magari ritrovare qualche superstite. Per cui io l'idea era ritrovarsi con Van Richten e andare alla vigna. E però dobbiamo recuperare anche Smeralda. Se riuscissimo a recuperare lui e Smeralda è per... saremmo. Nel senso che le tracce. Ma magari lei è uscita. Cioè, lei, da quel che ho capito, lei voleva restare qui perché aveva un piano. Sì. Appena loro sono andati quindi via. Quindi se è uscita, può essere uscita o per ritrovare il cacciatore o eventualmente magari voleva avvisare. Secondo me, su una cosa almeno Esmeralda e il cacciatore ci stanno ingannando, cioè che possono comunicare. E quindi il cacciatore ha dato novità ad Esmeralda e le ha detto di raggiungerlo. Altrimenti non vedo il motivo per potremmo, cui Esmeralda è uscita da lì. Potremmo dire al borgomastro. A meno che tu non abbia detto all'abbazia, chiedo. Ci sono due possibilità. A meno che andiamo fuori sgattaiolando. A meno che tu non abbia detto altro ad Esmeralda. Anzi, sono esperto. Perché l'ultima volta che io l'ho vista ha parlato con te. Io le avevo chiesto di tenermi informato sui movimenti degli altri. E appena sono usciti loro è uscita anche lei. Evidentemente forse voleva avvisarmi. Però le sue tracce portavano verso il borgomastro, quindi oltre il loro cammino. Portavano fuori. Allora noi abbiamo seguito le sue tracce. Sì. Portavano fuori città, le abbiamo seguite finché addirittura non si fondevano con quelle del carro del borgomastro, quindi sì. Ben oltre dove sono andati loro. Che c'è sto carro il borgomastro? I cavalli, scusa, mi viene a dire carro perché non era però carovano, tu sei sicura che tu sei sicuro che sia andato da quale parte del bivio è andato? Oltre. Ok, da quale parte? C'è stato un bivio? C'è un bivio. Hanno continuato verso il borgomastro. Ok, quindi andate dalla parte del Borgomastro. Verso la città, per intendere, verso Vallachi. Ok, ci sono due strade che arrivano a Vallachi. C'è un bivio dove ci sono le due strade che vanno a Vallachi. La stessa strada? Quale delle due quella strade? Quella del Borgomastro. La stessa strada del Borgomastro. Quella del Borgomastro. No, ok, però non è, cioè, così. Sì. Cioè, lui, ha... lui in realtà si è mess- lei l'ha perso ben prima. Io ho cioè, seguito le sue tracce si sono confuse con quelle dei cavalli del Borgomastro. Però quindi, se ho capito bene si era confuse prima. Ho capito, ma no, si sono confuse. Se arriva al bivio e vede solo delle tracce che vanno verso il Borgomastro, è andata lì, cioè non è andata. Se no, vedevo le si sono confuse anche prima del bivio. Questo è il discorso. Io vabbè, però se lei avesse poi prima. Preso l'altra strada, l'avrei rivista. Io avevo capito che si erano confuse sì. prima del bivio. Ma tu non hai avuto modo di seguirla. Ma chi se ne frega, quello che dice quello dall'altra parte, perché siete corsi. No, cambia abbastanza sostanziale. Non cambia niente a te, perché Shun ti dice quello. No, ok, però nel senso, vabbè, fa lo stesso, prego. Quello che ti dice lui è quello. Sì, va bene, Salla, volevo cioè solo che lui fosse conscio di cosa gli aveva detto Katta. Io ti ho detto lì, chiaramente, se vedo bene. Le sue tracce che deviano, tu non le hai viste. Sì, poi, no, lo so, non so, non so vederle, io per questo conto... gli dico questo. Voglio capire cosa mi dice lui, però se me lo dice sapendo di oppure le tracce no, che ho visto io andavano in quella direzione. Va bene, quindi andava dalla parte del Borgomastro. Tracce che ho visto e io, allora sì. Quello ci possiamo fare poco, vuol dire che è morta probabilmente, oppure si è salvata e ritornerà verso la porta. Secondo me si è incontrata in qualche modo, si è riconciliata col cacciatore. Io non è andato di lì però il cacciatore comunque vabbè sì, può essere tornato indietro. Allora se si è riconciliata col cacciatore rincontreremo entrambi, quindi va bene. Lo so, però l'ha fatto di nascosto a noi, il chiama e puzza. Beh certo che l'ha fatto l'ha fatto di nascosto a voi, perché io avevo detto di fare così, quindi sì, sì però quindi ha fatto bene, parlo di nascosto a voi, segui il mio ragionamento. Giulio, le sue tracce hanno seguito la tua stessa strada. Dio. Tu a un certo punto sei tornato indietro, ok? Sì, quindi ti devi aver visto tornare indietro, ma non si è fatto vedere. Giorgio, un anime manga, segui i miei passi. Tu sei partito col Borgomastro. No, poi sono c'è un gran parapiglia, gente che va a destra e a manca, che cerca andata, il colpevole nelle case, nei fienili, nelle stalle. Perché noi non siamo andati nella stalla del Borgomastro, noi siamo andati dall'altra stalla. No, però avete incontrato con il Borgomastro. Perché dopo siamo tornati indietro, però lei è partita. Come scusa, Salla? Tu sei partito, loro sono partiti e poi è partita lei. Senza farti notare da loro? Hai capito? Fa lo stesso, comunque sia, okay. non cambia molto il piano. Race vi ha detto che va all'abbazia lui. Tu vai all'abbazia Race, ma non si puoi aspettare magari un attimo che non ha senso, cioè andiamo lì e prendiamo Atanas e andiamo via. Ma vuoi difenderlo o vuoi darlo a lui? Allora, facciamo così, noi usciamo e tu se vuoi recuperare Atanas portalo fuori. Ma perché uscite? Dobbiamo aspettare il cacciatore qua? Ma il cacciatore lo intercettiamo fuori a questo punto. Beh, abbiamo possibilità di farlo sicuramente. Tanto se usciamo adesso... Ha trovato Atanas? Lo vuoi incontrare per riconciliarti a lui? Cioè, difendere presto ci saranno l'avventura di Race e Atanas alla conquista di Barovia. Ho capito, però stare con Atanas in questo momento vuol dire essere complici del... Okay. Lui però... chi? Atanas. Ma Atanas ormai è... cioè nel senso... Vedi che dobbiamo dividerci, no? Dobbiamo stare con Atanas in questo momento vuol dire essere complici di quello che ha fatto. Onestamente, io onestamente di essere. Atanas non mi fido e non... Ma dico che stiamo uscendo e poi esco. Allora ci vediamo tutti fuori. Va bene. Come vuoi. Per me va bene, ovviamente. Cioè è stupido dividerci, è stupido se non usciamo andiamo via e lasciamo lì. È anche stupido uccidere un bambino non... senza motivo. Io non mi fido di lui, però abbiamo fatto una fino cosa al terzo grado. Tu lo vuoi avvisare e no, a parte quello, tu non sai che non, cioè il motivo io non mi fido di lui, senza a maggior ragione dopo quello. Ci vediamo della tizia qua davanti, cioè per l'amor di Dio, cioè veramente. Io grazie sì. Race. Io sì, perché non sgozza dei bambini in giro. Cioè almeno parliamo con lui, chiediamo che cosa è successo. Parole tue, non è la prima volta che fa mosse azzardate senza motivo. A maggior ragione. ragione se l'abbiamo appoggiato fino adesso, perché è detta a caso. Beh, le sue mosse. Ma infatti, anche non abbiamo mai appoggiato nessuno di noi, in realtà. Temo che ormai lui sia perduto, non dico di andarlo a cacciare. Però va bene, facciamo così. Allora, tu vada ad avvisare, noi intanto usciamo. Ho ucciso dei cavalli. Sì, anche per me ho ucciso la moglie del borgomastro della vecchia città. È difficile prendere una decisione che abbia un senso logico e razionale. Cioè, io andrei avanti. A questo punto anche allora. Il mio personaggio comincia ad avere dei dubbi su Atanas. Se è vero che ha sgozzato un bambino a sangue freddo, comincio anch'io ad avere dei dubbi sul fatto che abbia influenze o no maligne. Che sgozza bambini a sangue freddo in pieno giorno? No, non l'ha mai fatto. Già, assolutamente. No, ha sgozzato dei cavalli, ma è un'altra cosa. No, ha fatto anche i bambini, ma non si è fatto vedere. No, bambino no, bambino mai. Hai ucciso i genitori. I genitori e il bambino che l'hanno venduto alla strega. Però sì, non ti sei fatto vedere. Non lo storia lì c'era un motivo. Però c'è qualcosa che hai fatto lì. Cioè, no, nel senso che ha ucciso quello che stava per affogare. Questo è proprio gratuito. Agli occhi nostri è solamente bruciato la gente in piazza e ucciso i bambini. Allora, di quel che ho fatto davanti a voi, ho ucciso i cavalli, ho ucciso il tizio. Quindi ho ucciso il tizio che voleva affogare la vistana e ho ucciso la moglie al borgomastro. Fine. No, ma infatti io non sono tanto. Cioè, ok, so che lui è efferato. Sicuramente so sappiamo che non è stabile mentalmente. Allora, io so che lui è efferato. Che non è una cosa. Io so cioè, che è una cosa che sappiamo che vuole essere. Io so che lui è efferato, però il mio pensiero è che siccome adesso ha fatto il patto con Strad. Sia sotto il suo controllo, comunque incitato da punto lui. Anche io e quindi personalmente non mi fido, non mi va di andarla a cacciare, però al tempo stesso non mi fido. Però, siccome abbiamo preso un accordo, se tu Race vuoi andarlo ad avvisare, va bene. Però l'abbiamo sempre saputo che è pazzo, l'abbiamo sempre appoggiato fino adesso. Essere pazzi ed essere efferati negli omicidi, ok. No, io uccidere gratuitamente un bambino in pieno giorno è un'altra però cosa. Però non c'è discussione che sto generando. Io ho visto quel bambino, non era molto stabile neanche lui. Tuttavia è un bambino, ho capito, però dai, questo ai nostri occhi. Non è un bambino normale, è il bambino più rompicoglioni. Vabbè, Race, capito, però queste cose. Però cioè, io comincio a avere dei dubbi perché nel momento non in cui credo che giustifichi, però, cioè, ai miei occhi sembra un complotto fatto da voi. Comincio a dare ragione a Rex, nel senso che io la scena che ho visto è voi che convincete il borgomastro a uscire dalla città, lui che rientra in città e uccide il figlio. Ai miei occhi non l'hai visto, però se è vero, vabbè non perdiamoci, diciamo così, a me sembra un'azione così efferata e gratuita che effettivamente voglio sentirmelo dire a lui, l'ho ucciso perché mi andava. Ok, no. E comunque mi fido più di lui rispetto a una sconosciuta. Questo ci sta, ma infatti secondo me è buona l'idea, siccome comunque tanto la città è tutta contro di lui. È buona l'idea che Race lo raggiunga e poi deciderà lui se seguirci oppure rimanere la sicura. Arrivi all'abbazia, all'entrata ci sono i due amici Otto e tu sei molto furtivo. Ciao anche a te. Ti vedono arrivare con questo sacco di carne sanguinolenta sulle spalle. Ah, tu hai insaccato il bambino? No, è il sacco, è il bambino. Ce l'ho sulla spalla. Sì, nel senso hai messo il cadavere. Cioè, tu stai girando il cadavere del bambino sulla spalla. Beh, allora direi che è chiaro. Non mi hanno visto. Se è vero quello che dice sta ragazza, non vedo perché dovrei. Beh, Casimir, ha visto allontanarti col cadavere. Sì, vabbè, Casimir. Vado verso. Ok. Solo una cosa, Pat, ma tu. Sì, sono abbastanza. I tuoi poteri animaleschi. Kat, io l'ho fatto un riposo breve intanto. Intanto quando? Quando? È passato un'ora. Da quando? Ma non si è mai fermati, però Arci. Però non c'è modo di entrare in contatto con lui, con uno dei due animali, no? Con chi? Con Salla? Sì. Cioè lasciargli un animale, tipo che... No. Vado io verso l'abbazia, Kat. Allora okay. Aspetta, ci vediamo... Tu non hai il pistrello? No, c'è la varritta. C'è la varritta. E c'è un punto, diciamo... fuori la città... Un punto di riferimento. Esatto, perché non sia il bivio. Però il bivio non era male in realtà. C'è quello, c'è il fiume. C'è... Cos'è il fiume? Quanto è lontano il fiume? È vicino al bivio. Vabbè, va bene il bivio. C'è la torre. C'è la torre. No, vabbè, la torre è più in là. Va bene il bivio, tanto alla fine sulla strada cambia poco, parliamo di poche centinaia di metri praticamente. Va bene. E ci troviamo al bivio, Race. Va bene. Bivio è a 2 ore e mezza da qui. Bivio è a 1 ora e mezza? 2 ore e mezza. Va bene. Però poi dopo dobbiamo passare da lì per andare alla vigna? In realtà no. Cioè, la diramazione per è prima la diramazione per andare alla poco prima alla vigna e noi vediamo c'è quella che però è comunque la strada che dal bivio è comunque la strada che dal bivio arriva a Kretzk. Su quella strada lì c'è il bivio per andare alla vigna, venendo da Vallachi, dici. Allora, io voglio dire, dal bivio con le due strade che arrivano a Vallachi c'è una strada che arriva a Kretzk. Su questa strada tra Kretzk e il bivio c'è il bivio che va alla vigna? Catta, non è difficile. No, fammi vedere la mappa. Comunque credo di sì la risposta. Allora, dimmi dov'è. Vedi, qua, Kretzk dove qua, è? Kretzk è qua, no? Ok, dov'è il bivio? Il bivio è qua e qua ci sono le due strade. Ok, e la vigna? Una strada che va per le montagne e una strada che va per i boschi e che porta la vigna. Questa è la strada che va alla vigna, quindi è prima, è va bene. Bivio, in e questo, S è Kretzk. E subito dopo il ponte sul fiume. Perfetto, allora ci vediamo dal ponte sul dopo il ponte, dal ponte sul fiume, dal bivio che va. Quindi dal ponte sul fiume ci vediamo. Ok. Che è a meno. È sempre è a 2 ore e mezza il ponte, scusa. Il bivio è 1 ora dal ponte. Ok. Perché tu mi dicevi che una cosa che è al doppio della distanza, è la stessa distanza. Va bene, ci vediamo lì, Race, ok? Va bene. Io regalare tra poco dovrei andare. I due tizi ti fermano e ti dicono che non è successo. Chi è questo qui? È il figlio del Borgomastro. Borgomastro alla fine l'ha salvato. È morto. Perché l'hai portato qua? Ma intanto perché c'è un cimitero qua? È che io avevo fatto andare, non perché adesso è il mio nemico. Non mi sembra. E poi perché l'abate nel caso può resuscitare, usare dei pezzi. Era un po'. Io preferisco uscire. Abbiamo abbastanza starrefatti e così che sarebbero andati lì per cacciare. Attendi un attimo, andiamo a chiamare la bate. Volendo io. Però sì. Non è la mia priorità. Perché tu non sai. Dopo un po' esce la bate. Non stento a prendere. Nella sua tranquillità. Sarà gratuito. Però secondo me lui buongiorno. Buongiorno Arta. Buongiorno Bat. Dimmi. Ha maggior ragione perché comunque voglio tornare indietro. Cosa stai facendo, figliolo? Non mi sembra. Diciamo che sono venuto nell'unico posto sicuro. Che pensavo, cioè nell'unico posto che pensavo fosse sicuro. Tu vuoi farlo resuscitare o vuoi resuscitarlo per ammazzarlo di nuovo? Cioè, comunque bella idea. Non riprendi l'expert. Non la prendo comunque, quindi se. C'è l'ex per i bambini ammazzati? Sì, esatto. No, non no. C'è. Infatti, Giulio, no. Adesso stai vivendo. Cittadini! Dimmi, figliolo, cosa è successo? Ma è finito bene da voi, vedete voi. Purtroppo è caduto sulla spada. Purtroppo, delle spade sono cadute su di lui. Ah, Tarasso. Beh, le mie spade sono cadute. Figlio mio. Cioè, le mie spade, mentre io le brandivo, sono cadute su di lui. Col mio braccio attaccato alla mia estremità. L'ultima frase che ha sentito dire il bambino è stata: presto l'era degli onori sarà finita per te, principe. Detta da giù. Era importante per me che questo ragazzo fosse vivo. È un vero peccato. Ma non per me! Per la storia del vestito? È molto importante. Bruciato. Il vestito non esiste più. È finito sotto le mie fiamme. Non bisogna farlo una ragione. Le fiamme sono finite. Le fiamme sono cadute sul vestito. Me l'ha detto il signore del mattino in una visione. Aspetta, che c'era il vestito. Ma quando tempo forse fa? Dubitando della mia fede? No, della sua fede assolutamente no. Perché come ho fatto il mio nano a entrare in compagnia? Giusto. Mi sembra pazzo, psicopatico. Andiamo a fare avventure buone con lui. C'è un paladino d'altronde come garanzia. Sì, anche a me piace l'arte. Bravo Atanas, ti faccio scopare mia sorella. No, in realtà è più dubbioso di fare, esatto, su perché il mio personaggio sia con lui. Che triumvirato amici da una vita, però. Sei grandi amici. C'è un po' di ammazzavate bambini insieme. C'è un po' di oscurità anche. È la prima volta che ammazzo un bambino, forse. Vieni, Atanas. Hai delle colpe da espiare. Può essere. Seguimi e prendi. Oh, dai che si prendono dei punteggi caratteristiche, raga. Hai del distributore. Hanno disculpa, ha ammazzato un vecchio che ha costretto all'agonia senza lo sapone, no? Non si giuda. Che non sia un prendere necropedofilo. Magari ha aggiunto la sua voce. Magari anche dei bambini. No, la sua non era aggiunta. Perché ti ha detto... Sì. Vieni con me, Atanas. Va bene, si può sempre spiare in qualche modo. Muori anche tu. Assolutamente. Adesso vedremo come cosa possiamo fare. Allora, cioè lo segui, lui ti porta nella... Spero che ti faccia nascere la testa di quel bambino che per sempre parli. E non puoi ucciderlo perché sennò ti decapi. Non ci avevo pensato, però sarebbe molto divertente. Bello. Si suicida. E non puoi mai non puoi morire. E non puoi morire. Allora, lui ti porta nel mattatoio. Prima di entrare al mattatoio c'è una scala che va al secondo piano. Ma non si usa a fare, parte. Non so, tot Padre Nostro e tot Ave Maria. Scusa la domanda, non può neanche provare a salvarla, è sicuramente già morto il bambino. Beh, l'ha sgozzato. No, l'ha sgozzato, ma l'ha tipo quasi smembrato con tutti i danni che gli ha fatto. Però può provare a fare qualcosa. Ha tirato i danni. Sì, ha fatto 4 attacchi. Ha usato anche l'action surge per fare un'azione. Sì, esatto. Ha fatto i suoi 2 attacchi, ha fatto solo 6 danni, ha fatto action surge per avere un altro doppio attacco. Tipo Arci che fa. Voglio sentirlo detto da lui, voglio che sia lui a dirmi, mi fido più. Il suo sangue zampillava sulla terra. Ha fatto 4 attacchi per 22 danni. Non mi pare comunque una confessione. Sei convinto da Arci? Ma ancora non l'hai detto. Ho detto solo che zampillava. E quando ho infilato di nuovo la lama nelle sue carni, guardarci. Non è chiaro chi sia stato il primo. E non era il primo colpo, anche non lo scoprirò mai. Abbatte, è resuscitato una volta, si può sempre resuscitare, no? No, non è così semplice. Vieni con me, vedremo cosa possiamo fare. Allora, diventa un mostro. Facciate di giocare. Sono molto più utile con tutti i miei pezzi a posto, te lo dico. Da amico a amico. L'amico che sta appunto ammazza anche la base e finisce tipo. Non sono in grado di ucciderlo. Allora, ti porta attraverso una camerata. Inoltre, le messi della terra sono mature, dico, celestiali. Dove una volta c'era un letto di un ospedale, tipo. Mm. E da lì si accede ad una stanzino, dove al centro c'è questo tavolo pieno di macchie di sangue e di vari strumenti chirurgici. E un tavolo abbastanza largo, lui... appoggia il corpo esanime del bambino del ragazzo sul tavolo e ti dice Atanas mi dica abate in tempi più tranquilli mi sarebbe piaciuto avere modo di esplorare di più il tuo passato e capire il tuo destino. Cioè ti sta dicendo che ti voleva psicoanalizzare. E purtroppo non abbiamo avuto occasione di farlo. Ora vedi Atanas. Mai dire mai. No, infatti spero un giorno di riuscirci. Se non ti decapita. Ti sei macchiato di un peccato e adesso dovrai fare ammenda. Questo povero ragazzo non era tanto morire. Povero, tra parentesi. Mal capitato ragazzo non doveva morire. E ho bisogno come era già morto. Ho bisogno però del tuo aiuto per riportarlo in questo mondo. spero che tu non opporrai resistenza e la compassione, così in questo modo potrei anche incontrare la compassione dell'Altissimo. Dimmi, fratello, sei disposto a questo sacrificio? No. Non è molto nelle mie corde, abate. Speravo in qualche altro modo di espiare. Caro mio, purtroppo le vie del Signore sono misteriose. Appunto per quello. E sento che ci sia bisogno da parte tua di un atto di fede per poter espiare le tue colpe, altrimenti il tuo destino potrebbe arrivare ad una triste conclusione, cosa che vorrei evitare. Ma arriverebbe comunque, sta per comunque arrivare a una triste conclusione. No, farò in modo che la tua storia possa andare avanti, non allo stesso modo, certo, ma... Ok, prima sentiamo la proposta. Ho bisogno di pezzi di ricambio per riparare al danno che hai fatto. Ma posso procurarli? Oh, non sarebbe la stessa cosa. Beh, cioè, è un 14enne e io sono... non sono esattamente... Oh, quello non è un problema. È proprio il fatto che deve essere... Dopo con Camelot. Di tua buona volontà, redimerti dal tuo gesto. Io li chiamo diverso. Per riparare al torto che... Mandate un vocale su Thunderbird di questa scena. No, guarda, direi che non la finiamo oggi. Cioè, finiamo adesso. Ci ricordo di figlio. Si distribuiscono caratteristiche, ma è costituzione. Ciao Arci. Ciao Giulio. Bocca al lupo. Ciao Ezzina. Ciao Arci. Ciao. Dimmi qualcosa per il 23, non mi ricordo che cosa succede. C'è un sushi. Ok. Se non avevo chiuso nella ride. Dentro il ride. Ha fatto un ride di sushi, quindi chiuso in mare di locali. Se lo yom è ancora aperto. Posso dire perché forse sono un impegno. Sì. Però dai, se lo yom è ancora aperto vuol dire che mi ha fatto bene andare lì. Anche se un po' spero che sia chiuso per dirlo agli altri. Però vabbè. Ciao, Arx. Ciao, sono io, ragazzi. Ciao. Buonanotte. Ciao, Salla. Ci vediamo tra un po', Arx. Cioè? Che vado in ferie. Tra 2 settimane? Adesso. Torno sì, tra 2 settimane. Addio. Stavi bene. Ciao. Allora, ciao. Mi serve un atto di redenzione, Athanas. Che sono convinto che c'è del buono ancora nella tua anima e che tu sia stato mandato qui per espiare un qualcosa che devi aver fatto in passato. Se mi aspetti, lo ammazziamo. Non lo ammazziamo perché so cos'è, però. Sa cos'è. Dimmi, figliolo, sei pronto? Non posso chiedere qualche ora di meditazione per pensare bene? Potrebbe essere già troppo tardi. Per cosa? Per salvare. È già morto parecchio. Oh, sento ancora un po' di forza vitale che alberga in lui. Se ci sbrighiamo, forse riusciamo a salvarlo. Basta non sei procrastinare. No, no, non ha senso, non lo farei mai. Non lo faresti mai. Mi dispiace. Che cosa ti ha chiesto? Di sacrificarmi per riportare in vita. No. Sacrificarti proprio a ammazzarti. C'è il Veronico. Ah, c'è proprio morire lui? No, non ha detto di morire, ha detto che servivano dei pezzi di ricambio. I pezzi. Uccidi qualcun altro. Io l'ho detto, ma non va bene. Cioè. Portagli qualcun altro. Che redenzione sarebbe? Scusa, fa ammazzare ancora. Beh, magari arriva il padre tra un po'. Il padre è d'accordo, da dei pezzi di ricambio per salvare il bambino. No, ma quello che interessa è l'atto di redenzione. È che lui si salvi, non il bambino. Ah, lui chi? Tu. Ma io mi salvo se vivo, non se muori. No, infatti ti lui non... se ti redimi. Scusa, forse non hai capito, non ha intenzione di ucciderti. Ah, ok. pensavi che... Sì, che cioè, mi ammazzasse, sì. Ah, no. Vuole un sacrificio, ovviamente. Ok, qual è il sacrificio? parte del tuo corpo. E quale parte? Cioè, ci sono parti che quello servono più di altre. Lo devo vedere ovviamente in corso d'opera per fare l'operazione, non lo so in anticipo. Però è il gesto, è l'atto di fede, se tu sei il tuo animo è disposto a farsi perdonare. È quello che mi serve da te in questo momento. Beh, puoi fare una, possiamo fare una pausa di riflessione, un esame di coscienza e rivederci alla prossima sessione. Okay. Se non te la senti, dimmi tu. Sì, secondo me ci sta che ci penso. Se devo pensare. Come si deve pensare? E quindi cosa succede? Anzi no, aspetta. Dilemmi morali questa sera su Tycoons and Dragons. Era finita la diretta, questo pezzo non è stato registrato. In teoria sì, c'è. Io continuavo a vederla. Sì, in realtà vedi che adesso siamo in diretta, non so, lì ogni tanto fa queste cose. Oh, per me ci sta che ci pensi. Bene, cari telespettatori, votate col tasto rosso del telecomando. Fai fare l'unica parte, facci salire di livelli. La vostra parte è andare fuori dalla città e aspettare al ponte, o sbaglio? Quindi riusciamo a passare e nel frattempo non arriva nessuno? Non incontriamo il catcher. Mi devi dire, Salla, il range con cui comunichi col pipistrello? Non è tanto. Ci vuole. Lui però non è fuori con me. No, lo so. Però appunto potrebbe captare un segnale. Dipende, dipende quanto è la distanza. Che casino se adesso Irida decide di vendersi a strada. Perché dovrebbe? Boh, magari è un colpo di scena. Sarebbe perfetto. Magari Irida è strada. Cosa? Vai. Visto, non hai capito un cazzo. Allora a quel punto io devo uccidere Irida. No, Irida, vuoi resti se ti vedessi. C'è solo un modo per evitare qualcosa. Ci starebbe in realtà di brutto. Beh, è un modo per evitarlo, quello, indubbiamente. Ci starebbe di brutto. Non sarebbe tanto contento. No, ci starebbe di brutto perché sarebbe anche tipo la storia che l'uovo si ripropone. Sì, certo. Però appunto, roba. Sarebbe comunque condannare di nuovo la sua povera anima a soffrire ancora. Ma sì. Ma non lo costrare. Salla? Dimmi. Ti aveva fatto la domanda carta da cui dipende. Non l'ho sentita. Quella di prima, Salla, quant'è la distanza? 100 piedi, ti ho detto. 100 piedi solo. 100. Non avevo sentito. È anche un insetto. Allora, tu stai salendo dall'abbazia. E voi altri invece siete usciti di nuovo e state andando al siamo ponte. Siamo quindi io, Garrosh, Patk e Casimir. Casimir e Pietro. Pietro è tornato a casa e è scappato via dalla folla. Perché? Pietro è, una volta che è tornato col borgomastro, è tornato a quello che stava facendo prima, agli ordini del borgomastro. Così? Triste? Cioè l'abbiamo fatto girare e lui fa così? No, non dipende da lui. Lui esegue gli ordini. Da bravo cittadino. Beh, tu eri affidato alla nostra compagnia. Sì, per fare quello che avete fatto. L'avete fatto e adesso... Non abbiamo fatto un cazzo, stupido Pietro, vabbè. Beh, oddio, Pietro. Siete riusciti a mettere in sicuro Irina e salvare il borgomastro. È una grande vittoria. Siamo fuori con un cavalli cavallissimo. Siete fuori come dei cavalli, sì. E aspettate di ritrovare Van Richten al ponte. E Race dall'altro posto. E dopo un po' vedete arrivare un carretto. Scusami, prima di finire cosa c'è, posso fare giusto 2 minuti di scena con Sceo in cui gli chiedo di uccidere King? No, approfitto che non ci sono gli altri due, okay. Gli altri tre poi. E vi aggiornate su. E gli chiedo, cioè gli dico i miei dubbi su loro. sul fatto, ti ha detto che è un fatto, un patto con Strad? Beh, un patto no, quello che mi hanno detto è sì, che mi detto. No, il patto della maledizione, della cosa del patto, io non lo so. Il patto nel senso che hanno dato, hanno sacrificato una cosa per io, quello non lo so. Però cioè, vabbè, io so che in un certo senso hanno, così me l'hanno detta loro, hanno, non è che sono d'accordo con quello che vuole fare Strad, semplicemente hanno detto per conto di Strad andiamo noi da Irina a provare a convincerla piuttosto che Strad in persona ad andare da lei. Un valeggiamento folle. Questo per ora mi hanno detto. In realtà anche a me ha fatto strano, però tutto sommato ho pensato piuttosto che Strad e i suoi scagnozzi preferisco avere intorno a Irina loro due. Ma se sono dalla parte di Strad. In realtà non è chiaro da che parte stia. Però hanno fatto un patto con lui, te l'hanno detto. Beh, quello che mi hanno detto è quello che ti ho detto. Di più non mi hanno detto. A quanto a noi hanno raccontato che hanno dato impegno a Strad a alcune delle loro cose. E stando a Varrichter, questo permette a Strad di vedere in ogni momento dove loro siano e poterli anche controllare, probabilmente. Mm. E può controllarli? Non è chiaro questo. No, non però è chiaro. Lo può dire. Non è chiaro. Non è chiaro, però il comportamento di Atanas. Che possano controllarli, non credo, perché avrebbero già agito più impulsivamente di così. No, verso Irina intendo. Verso Irina intendo. Beh, Irina non l'hanno vista perché gli vedo gliel'ha fatta vedere. Beh, però non hanno fatto chissà che cosa per cercarla. Cioè, sono tornati tranquilli in città, lui è venuto con noi da Borgomastro, non questo hanno fatto tutto sì, per cercarla. Questo sì, però il comportamento di Atanas mi. Questo mi ha fatto strano, molto. Però io non vedo il nesso con Strad. Io temo che ormai siano sotto il suo controllo. Sì, però non vedo il nesso. Cioè uccidere questo bambino perché Strad dovrebbe volerlo, non ha senso. Diciamo che uccidere il figlio del borgomastro potrebbe destabilizzare la situazione. Perché non uccidere il borgomastro? Perché beh, c'era quasi. Non c'era. Se anche lui è sotto il controllo di Strad, sì, c'era. Quello è vero. Non lo so, faccio fatica a dirti, magari non è un che li sta controllando, magari è un piano di Atanas, magari ha agito così, o magari non l'ha fatto, però io credo che questa sia stata. Diciamo che non mi fido molto ormai. Io credo suo che giudizio. A uccidere quel bambino sia stata la mano di Atanas, se non di Strad. Il motivo non lo so, sicuramente in questo momento, dentro la città, stare di fianco a lui può essere un problema. Non nel senso che voglio accusarlo esplicitamente. No, di quello ne abbiamo già parlato, però il discorso per me è un altro. Cioè io ammetto di aver commesso degli errori a Vallacchi. Secondo me la cosa migliore adesso nel è. Nel senso che questo ha dato la città a Strad. Pensavo onestamente all'epoca che tutti noi avessimo commesso un errore. Però non vorrei che invece magari qualcuno di noi. Caso specifico Atanas invece l'avesse già pianificato. Atanas non aveva ancora incontrato Strad prima di Vallacchi. Magari però si era già convinto che l'unico modo per diciamo. Sai tu che hai fatto il piano lì, hai fatto tutto da solo, cioè lì abbiamo agito tutti insieme no, come gruppo. Infatti ho commesso degli errori. Li abbiamo agito come gruppo, non è stata una scelta di uno. No, anzi io volevo andare alla vigna. Ma infatti io l'ho reputato. Io, sì, ma l'attacco cioè, no. Io cioè, la scelta l'ho fatta anch'io e per me è stata. E poi si è rivelato un errore e questo ovviamente. Ma, al di là di quello. Però il discorso è non vorrei, viste alcune decisioni poi prese da Atlas, che invece lui, o magari è stato dopo, chi lo sa, però anche il fatto di tornare indietro non ho capito perché. Allora. Intanto scindiamo due cose. Uno, stai parlando solo di Atanas, ma tecnicamente anche Race va messo sullo stesso piano. Anche Race sì, però di Race conosco meno, mentre Atanas lo conosco di più. Sì, però se tu di dici Race che però se tu dici che uno è sotto l'effetto di Strad, lo è anche l'altro, quindi dobbiamo agire in ugual modo su infatti, tutti e due. Sì. Secondo me la cosa migliore è aspettarli sicuramente e continuare con. Considera comunque una cosa che a quanto ci hanno detto loro sostanzialmente da quello che ho capito non so come però ho fatto ce l'ha raccontato vero e proprio come ha fatto a a stanare il borgomastro? No, ci ha solo detto che era fatto in modo che uscisse. Sì, solo l'hanno convinto. Non mi sembra che abbia detto molti dettagli. Solo sì, è vero, infatti il borgomastro, voi avete sentito dire questa storia che è comparsa. No, lo so, non mi ricordavo se però lui ce l'aveva raccontato meno. Vabbè, io comunque avrei detto in ogni caso quelle cose lì, senza dire che era stato lui. Ma il discorso è questo. A quanto pare loro hanno convinto il borgomastro a uscire. Dicono per seguire me, ci può stare, però è vero l'hanno che usato, è stata una cosa. L'hanno usato come esca per trovarti, è chiaro. Sì, però è anche vero che, diciamo, però faccio un passo indietro. Allora, forse potevano trovare anche altri modi. Allora, il nostro obiettivo rimane ovviamente così divertente. Mettere i bastoni fra le ruote a strada. Ora, premesso che io mi sto fidando di te e della vostra parola, di voi tutti, sul fatto che Rictavio sia dalla nostra. Cosa che ancora io non so. Beh, quello però, con tutto il rispetto, nel senso, se lui è chi dice di essere e non ho molti dubbi a riguardo. E se lui fosse sotto l'influsso di Strahd, visto che lì sarebbe Strahd a ingannarci, però se ti ricordi, Strahd voleva soldarci per cacciare questo cacciatore. Te l'ha raccontato. Però Strahd. Questo ma Strahd è talmente più forte di noi che è sempre stato molto palese. Cioè, io non ho visto dei grandi inganni da parte sua. No, però è passato, però aspetta, è passato del tempo da quando Strahd ci ha detto questo. Allora, tutto può essere, per carità. Però io sto solo dicendo che in questo momento, secondo me, la priorità è trovare Irina e il cazzo che lo tiro malvagio. Da il quando ha perso Isabella, era lasciato via dov'era, era sicuro. È che beh, per forza era forse l'unico posto al sicuro. Appunto, speriamo la che per forza devi seguire per quella strada. Il personaggio rimane sempre così, nel senso che non è buono, non è mai stato. Allora dopo mi verrebbero dei dubbi anche sul cacciatore. Cioè, non è per lui uccidere qualcuno. E come probabile dirà che Irina non accetta ovviamente di accettare Strahd. Sì, di solito non ammazza qualcuno senza motivo. Il prossimo passo. Io stavolta magari c'era poco motivo perché cioè, ci sono tre poniamo una condizione, quello che farebbe ci sono tre persone, non farti condizionare, ci sono solo tre persone che si sono palesate troppo dall'allineamento quanto più dal tuo grado, il fatto della redenzione, sono gli unici tre che sono così, io sono gli unici tre di cui ho trovato un modo di fidarmi. No, l'abate vuole dare una sposa a Strahd, quindi io non mi fido. Non ha detto di sconfiggerlo. Non è la stessa cosa. Non ha detto di sconfiggerlo, ha detto che vuole. Ha detto di rompere la maledizione, abate però. Sì, come lo volete rompere la maledizione, non è ucciderlo. Vabbè, io questo è il mio ragionamento mio, poi chiaro. No, certo. Il mio personaggio ragiona così. Sì, sì, però il mio personaggio per lui di dare il pasto Irina a Strahd non è il modo per presentare la cosa. Sì, lui vuole dare soldi di Irina, però sostanzialmente l'abate lui mi ha raccontato che di fatto negli anni è diventato, tra virgolette, amico di Strahd e lo compatisce, cioè lo compatisce, eccetera. Questo per me è pura follia. Cioè, il mio personaggio la vede così, non è. Certo. E quindi cioè, è basato su questo. Quindi io dell'abate non mi fido, tant'è che io dell'abbazia volevo comunque telare, a prescindere dal fatto che arrivaste voi o meno. Ok, il discorso che dicevo io è ora che siamo soli, approfittiamo. Il prossimo passo secondo te quale dovrebbe essere? Ci incontriamo col cacciatore e allora ci tornare in città è impossibile. Cerchiamo di recuperare comunque Race andiamo alla vigna. Una volta ricostruito andiamo alla vigna? L'idea è andare alla vigna perché secondo il cacciatore diceva che anche a Vallachi c'era a quanto pare l'oste che secondo lui faceva parte di questa associazione. Ma che associazione è? I guardiani delle piume si chiama, si opponevano a Strahd. Uh-huh. E a quanto pare avevano il monopolio del vino in Barovia, probabilmente cosa che, come hai visto, è impossibile con questa nebbia crescere del vino, quindi chiaramente si vede che sono comunque potenti nella magia. Il fatto che ora il vino sia terminato, noi è una cosa su cui non abbiamo dato mai molto peso, ma a quanto pare probabilmente è legato a un'azione, diciamo, di Strahd contro di loro. Quindi bisognerebbe capire se ce n'è rimasto ancora qualcuno che magari, con il quale magari possiamo allearci. Più siamo, più forse abbiamo possibilità di andare, diciamo, seguire la strada delle montagne dove, secondo Casimir, risiede il segreto per sconfiggere Strahd. La vigna dov'è? Per capirci. Vabbè, dimmi solo anche da qua. quindi verso le montagne. Comunque. Poi, se dovessimo per qualche motivo recuperare il vino, potremmo provare a riportarlo a Kretzk nella speranza che riporti la pace a Kretzk. Siete qui, la vigna è qui. Ah, beh, po- abbastanza vicino. In realtà, la vigna. 5 ore, 6 ore. Cioè, non ho. Dovete fare un po' un giro dell'oca perché c'è un fiume in mezzo. Non ho grande simpatia neanche per il borgomastro di Kretzk. Che bello. Però a quanto pare, sostanzialmente, sia lui che a quanto pare quello che abbiamo fatto fuori a Vallachi, in realtà tengono, in qualche modo tengono strade lontano, e quindi bisogna tenerseli in qualche modo buoni. Il fatto da queste zone strade è sempre stato lontano fino prima del nostro arrivo. Sì, di fatto sì. Quindi, cioè, però diciamo che probabilmente lì è meglio tenere lo status quo. Okay, il problema lì è però, l'abate, che è la parte di strada. Però tu stai ragionando tutto questo dando per scontato di lasciare Irina dov'è? Sì, perché è l'unico luogo dove potrebbe essere al sicuro. Al sicuro da chi comanda queste terre, ogni singolo filo d'erba? A quanto pare è un luogo dove è impermeabile alla magia, e quindi forse è l'unico luogo dove, anche secondo Casimir, che è molto più esperto in magia di quanto lo sono io, forse potrebbe essere celata agli occhi di Strada, perché altrimenti, e tra l'altro questo metterebbe un po' più in sicurezza noi, nel senso che non avremmo gli occhi di Strada sempre domanda. Addosso, e anche tu, se tu mi hai detto, la presenza dei race in questo tu senso mi hai detto, cioè io sto a quello che mi avete raccontato voi, che Strada può vedere tutto ciò che succede attorno a Giulio e a Atanas e Reis, giusto? Sì. E tu mi hai detto che il cacciatore è andato col pipistrello di Reis, sì, da Irina, quindi ora Strad sa dove è Irina. Allora, il rischio c'è, e c'era in ogni caso, perché comunque c'è un rischio, è una certezza. Se diamo non ragione certezza, a questo ragionamento, perché comunque il pipistrello avrebbe comunque, ha detto che esatto, che addormentava comunque il pipistrello, eccetera. Lo metteva in un in sacchetto. Più non è, non è chiaro se il controllo su Race significa anche controllo. Beh, oddio, sì, dipende. Aspetta, dipende. L'oggetto l'ha dato Race, non il pipistrello. Sì, però in teoria, nella mia visione, vabbè, però se il suo controllo, se, allora. Se lui è Casimir conscio, alza la manina e dice: sì, il controllo di questo tipo è sul soggetto con cui viene. Vabbè, no, comunque, se lui, aspetta, se lui è conscio di quello che vede il pipistrello, e Strada il controllo, esatto, sulla sua mente, con dico, questo tipo di, di divinazione, non ti permette, no, non è avere un controllo sulla mente, è avere la coscienza, la no, conoscenza che ha il personaggio. Ti permette di vedere come se fossi uno spettatore dall'alto, sa okay, dov'è il personaggio. Il, okay, il rischio è più un altro, che loro vadano a dirlo a Strada. Beh, però almeno voi non avete detto loro dove avete messo i rini. Esatto, per questo noi non gliel'abbiamo voluto dire, dimostrare. Il rischio c'è, non è che non ci sia il rischio c'è ed è alto, però sicuramente c'è una possibilità in più rispetto a che lei sia qui in questo momento. È l'unico luogo che mi ha dato la sensazione, finalmente, di dove potrebbe essere al sicuro, mentre gli altri luoghi dove siamo andati... Ovviamente vi dice Casimir, non è perfetto. Però almeno nel momento in cui Strada dovesse sapere che si trova lì, sarebbe accessibile. E poi lì bisognerebbe. Non ha modo. È accessibile per lui. Potrebbe essere no, anche. È il contrario. È accessibile se lui sapesse dov'è. Ma è l'unico luogo in cui possiamo evitare okay, che lui sappia dov'è. Esatto. E in più lì. Io non è che mi fidi molto di questa cosa, onestamente, però se Reis e Atanas dovessero aver ragione, a quanto pare Strad vuole che sia Irina ad andare da lui. Io non mi fido tantissimo di questa cosa. No, questo lo sappiamo, infatti è un ultimo, però nel caso quasi assurdo tentativo, comunque potrebbe non andarci da solo lì. Non mi fido molto di questa cosa, onestamente, però se così fosse, allora avremmo forse un po' più di tempo. Per me, diciamo che è diventato onestamente prioritario nascondere la sua presenza. Va bene, allora direi che due. Il prossimo passo, se dovesse tornare il cacciatore, ovviamente da solo, perché Irina non immagino. Diciamo che il cacciatore come priorità aveva quella di recuperare Smeralda, perché riteneva che fosse. Tu non hai nessuna idea, cioè solo pensi che sia andata dal Borgomastro. Le tracce che, che abbiamo seguito io e Pat che portavano in quella direzione, poi si sono confuse con gli zoccoli dei cavalli, però non ho visto le sue tracce deviare, non le ho viste, questo non vuol dire che non abbia deviato, sembrava mai. Mi sembrava una gamba, speriamo che se la anche sia perché, e... scusa il gioco di parole, era una con una gamba, quindi le tracce sono cavallo, non era cavallo, mi hai detto che è uscita a piedi. Ah sì? Sì. Come facevi a sapere? Mi hai detto tu quando ho seguito le tracce che non era cavallo, te l'ho chiesto e mi hai detto no. Non ho ricordo. Anche perché non aveva cavalli della battia, penso lei. Almeno tu no, mi hai detto che è uscita a piedi. Benissimo, ne ha preso uno. Anche perché se fa invisibilità non so se vale anche per il cavallo. Bella domanda, non lo so. Deve farlo anche con cavallo. Questo cavallo. Cioè tu mi avevi detto che era a piedi, poi forse ho capito male. No, io non mi ricordo, sembrava così. Cosa. Perché avevo calcolato i tempi sul fatto che noi la recuperavamo a cavallo perché lei era a piedi. Mi riascolterò il. Comunque questa è la. Anche la persona che ho capito che era a piedi comunque. Mm-hmm. Ok. E quindi se confermiamo che era a piedi. Cioè le sue tracce sono più riconoscibili di un normale essere umano, però no, ma però quello facile, magari no, però è difficile che sia arrivata alla la stessa distanza degli altri. Questo non lo so, sicuramente ha superato il bivio, questo sì. Sì, è molto probabile che abbia superato il bivio. Non lo anche so. Perché di lei avete trovato bisogna sapere perché forse lei comunque non quello sa che il cacciatore il cacciatore proprio quasi cioè, sicuramente non lo saprà. Quello che non ho capito, faccio un passo indietro, se do ragione a te, lei è uscita di soppiatto per controllarci e magari riferire a te cosa stava succedendo, perché tu gli hai detto così e ci sta, potrebbe essere quello, però quello un piano suo che non sappiamo. Però al tempo stesso ti dico, in tutti questi incroci e il nostro fare avanti e indietro non è mai riuscita a rincontrarci? Mi sembra strano. Forse non l'ha voluto. Però magari non l'ha voluto perché infatti ha visto che ho io... due vie. O se n'è andata, a un certo punto ha smesso di seguirci, ha detto boh, io vado per la mia strada. Oppure ci sta osservando. Se ci sta osservando, speriamo che ci segua. E che a un certo punto si palesi. Perché secondo me, ormai, se ci sta seguendo, ha sentito tutti i nostri piani. Sei riuscita a captare i nostri discorsi perché... ormai prima io con loro, poi tu con me, ci siamo chiariti diverse volte, quindi io... se una di queste volte è riuscita a incrociarci, yeah. sa dov'è Rictavio a questo punto, perché se noi parliamo di posto sicuro e Rictavio conosce questo posto sicuro, lei fa uno più uno e ci va. Ma hanno detto che lei lo conosca, però è probabile, io credo. Non credo. Se hanno cacciato insieme in queste zone, lui conosce un posto sicuro. Perché lei è entrata dopo. Però sì, cioè, sono entrati due momenti diversi. È uno l'adepta parola. Dell'altro in questo vero. Però ti ricordi una cosa, cosa c'era ai piedi della torre? Hai ragione, sì. Allora, il luogo effettivamente lei potrebbe averlo dedotto, però il discorso effettivamente bisogna capire se ci ha origliato in qualche modo, questo non possiamo saperlo. Non possiamo saperlo, però come è invisibile ci ha seguiti è abbastanza probabile. È invisibile. Beh, lei è uscita dall'abbazia, ho seguito le tracce, è uscita dalla porta principale con i due Bellevue alla porta e non li hanno visti, non l'hanno vista, quindi... Beh, quello penso anche Race sarebbe in grado di farlo, senza per forza diventare invisibile. Ma i suoi passi hanno attraversato proprio la porta, la soglia, cioè, non è che è uscita da un'altra parte di soppiatto, ha proprio camminato passando per l'uscita principale, poco dopo quindi che sono usciti loro e c'era i Bellevue, c'ero io in giro, eravamo tutti lì, ma è uscita dalla porta se principale. Se ha questa capacità, a maggior ragione sarebbe... O invisibilità o tantissima abilità nel non essere vista, comunque. Sì, lo possiamo saperlo. Cioè, potrebbe essere però, dietro quell'albero, capisci cosa voglio dire? Io spero che lei ci segua, perché comunque siamo dalla sua parte e... Se lei non ci ha ingannati in nessun modo e la sua idea è... continua ad essere quella di comunque sconfiggere Straccia. Certo, possibile, deve però seguirsi. Quello che diceva il cacciatore su di lei corrispondeva abbastanza, quindi non ho molti dubbi sul fatto che lei sia chi dice di essere. Perché dici che lei possa aver capito il luogo? Perché... Cioè dici che loro perché hanno condiviso questa informazione? Perché sostanzialmente lì vicino c'era qualcosa che faceva capire che era passata da lì. Ma posso chiederti qual è questo un luogo? Un carro a parte no, lei. Posso chiederti cos'è questo luogo? Il luogo? È meglio per ora di no. Ok. Meno persone sanno, meglio. Quindi tu hai visto un carro di lei vicino a questo luogo? Un carro appartenuto a lei? Me l'aveva detto... non mi ricordo, me l'aveva detto Rictavio. Te l'aveva detto Rictavio, no? Me l'aveva detto, mi ricordo, sì. Ma Rictavio effettivamente sa che quello è il suo carro. Io come l'avevo intuito, non mi ricordo. Era un carro di, diciamo, di Vistano. Fattezza Vistano. E poi, appunto, parlando con Rictavio, sì, gli aveva detto proprio il cacciatore che comunque quello era il suo carro, era di Fattezza Vistano, ci può stare. Bene. A proposito, vedete in lontananza quel carro che si avvicina. E direi che possiamo concludere così questa un sessione. Carro tipo quello cloppete cloppete bravo. Bene. Alla prossima con dai catta quante sessioni sono è vero un po' dai vabbè sì, abbiamo fatto un milione di cose il dai. Problema è che si inseriscono vabbè ma ho capito ma se non abbiamo sbloccato uno degli achievement abbiamo fatto cioè, in realtà, io volevo dar l'occhio anche ai siti dopo cioè, la storia principale era questa noi siamo riusciti ad inserire mille sentieri e mille deviazioni ok abbiamo fatto una siamo di livello 12 così sta facendo esatto. Una bella avventura ci sta a farci salire di un livello abbiamo fatto delle belle robe abbiamo salvato il borgomastro ci siamo rincontrati splittati Giulio ha ucciso dei bambini no ci sale sì. Solo Giulio ci perché ha preso l'expo del bambino cazzo quante saranno sì. 10 sessioni che non saliamo lo so perché continuiamo a rimandare il momento vabbè ma nel senso tu sei libero svincolati dai vincoli Bez, quando si salirà di livello? Bevendo un bicchiere di vino agli arrivi da 12 effettivamente sarà così, alla vigna saliremo di livello fisso. È dai, ancora che problemi. Manca poco. Va bene. Dai, ci vediamo tra 12 settimane. Esatto. E vabbè, adesso ne parliamo. Fermiamo già. Non so, tu dove vai hai wifi, Beth? No, vabbè. Faremo un paio di settimane di pausa. Montenegro con Fabio e Beth la vedo dura che faccia sessione onestamente. Se per voi è un problema di fare un paio di settimane di pausa. E tornerai il... Io torno l'8, che è un lunedì, e quella settimana lì possiamo vedere comunque di organizzarci. Ok, proviamo a mettere un fermino il 9. Il 9 è un martedì. Sì, per me in realtà dovrebbe tendenzialmente andare bene. Minchia, con così tanto preavviso. Sai che io pacco solo il giorno prima. Sono tre settimane. Non pacco per un mese d'anticipo. Che schifo. Tu scevo le ferie ad agosto. Sì, tu dal 9 al 23. E tu, Giulio, sei in giro e vai qui. No, io sono sempre a lavoro. Io di ferie ho agosto. E Sara lavora. Io non ho ferie. Bravo, Sara. Va bene, allora dai, direi che dopo queste due settimane qua, direi che continueremo fino. Cioè, in realtà io ho le ferie, però mi serve per la settimana dopo. Dopo quando? Cioè, dopo a luglio? No, Ferragosto. Ah, ok. Va bene, se no facciamo il passato di Atanas nelle prossime. Infatti. Sono riuscito a fare un'altra settimana senza tirare neanche un dado. Mi fai tirare un dado? Tira un dado. Grazie. Un perception. Sì. Perché non hai deciso la prima cosa che ti capitava sotto uno fatto io. L'unica cosa che ho avuto sotto per tutta la sessione è stato Arci. Pensavo pezzo. No, il borgomastro, il cavallo del borgomastro. Però faccio un 13, ricordatelo la prossima volta. È il mio numero fortunato, quindi è facile. Va bene, grazie per averci seguito. Infatti, quindi io speravo che il bambino fosse più collaborativo, invece no. Ma ha ucciso una persona per te davanti a te. Sì, dovevo voler uccidere la madre, perché nella scorsa sessione aveva detto che la odiava. Però non è che deve uccidere proprio quel. Uno lo fa per il piacere di farlo. Vi diamo appuntamento ai prossimi episodi di Dragons & Dragons. Sì, ma doveva aiutarmi a uccidere la madre. Vabbè, in realtà, se vi va, in queste due settimane ci possiamo anche vedere peraltro. Sì. Se volete, possiamo fare il passato di Atanas. No, magari capiamo. Cioè, non ovviamente di lì, però se volete. Bella! Ciao! Ciao a tutti! Ciao Ambra! Era lì che guardavo. Beh, guardate che il passato di Atanas spacca. Sì. Grazie per i regali, ragazzi. Grazie per la carta. Portare a casa senza. E se hai 29 livelli, li puoi distribuire. Beh, sei stato un po' ingiusto. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, salve, buonanotte.